dai. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E bonsoir a tutti, benvenuti qui su Runtime Radio. Un minuto dopo le 21:30, leggermente in ritardo perché stiamo aspettando Carlo che ancora non è arrivato, quindi nel frattempo abbiamo detto vabbè, noi intanto partiamo e diamoci insomma la passa gioia per questa ennesima puntata di Quando eravamo futuro, che per ora siamo io, Simone Pizzi e Davide Gatti. Ciao Davide. Ciao, eccomi qua. Stasera se mi sentite un po' col naso tappato, è giusto? Sono il naso tappato. Sono qua. Eccolo, è arrivato, secondo me non ha neanche mangiato addirittura. No, sono, ho mangiato un panino al volo proprio mentre scendevo le scale. Vabbè, adesso un panino te lo potevi pure mangiare con calma, cioè, non è che succedeva niente, insomma. Però. Vabbè, ragazzi, lo sapete che io arrivo troppo tardi e quindi. Ma infatti noi il programma l'abbiamo fatto alle 21:30 proprio perché sapevamo che tu arrivavi tardi, se dobbiamo fare alle 22. Vabbè, comunque dai, a parte gli scherzi, allora Davide Gatti sul Survival Hacking e Carlo Sant'Agostino, mi avete sentito insomma che è appena entrato archeologia informatica e che sono stati reduci da penso 2-3-4 settimane di fuoco tra impegni vari, passerelle, momenti di gloria e per quanto riguarda Davide anche l'influenza, insomma. Sì, esatto. In questo momento sì, un po' giù la voce, un po' il naso tappato, ma ci sono, dai, ci sono. Sì, è stato un mese e mezzo da suicidio, devo dire, perché sono state tutte fiere una dietro l'altra, una attaccata all'altra, e sono stati sempre tutti impegni da organizzare, fare, sbrigare, quindi sono arrivato cotto praticamente all'ultimo evento. Adesso si spera che fino almeno tutto dicembre deve essere tranquillo, quindi avremo tempo di mettere in ordine tutto quello che abbiamo prodotto in queste settimane, soprattutto dal punto di vista multimediale. Ma io immagino che tu c'hai ancora la macchina piena di roba. No, ho scaricato tutto, ma ho scaricato tipo prendi gli scatoloni a casaccio esatto, quindi ci sarà anche il tempo per dove mette a posto le cose, questo dici poi. Sì, infatti dicembre le vacanze, le ferie le passerò a sistemare e ordinare. Bravo, bravo, va a lavorare. Devi disordinarle subito poco dopo. A metà gennaio, che è già prevista la prima fiera a metà gennaio, preparati Davide, perché cosa abbiamo? Scusa che sarà una nuova fiera, prima edizione alla fiera di Cremona, di cui non c'è ancora il nome definitivo, ma sarà molto interessante. Cioè, perché oramai le praticamente le organizzano su ordinazione, queste cose, cioè non è che i nomi per organizzarle. Ma guarda, dopo il Covid devo dire che c'è stato esplosione. Incredibile. Sì. Adesso non so se è sull'onda del fatto che siamo stati rinchiusi per 2 anni e quindi adesso tutti hanno voglia di vedersi, girare, fare, e magari poi tenderà di nuovo a diminuire. Però devo dire che c'è un'esplosione e soprattutto c'è un interesse altissimo per le cose di cui noi trattiamo, che fino a qualche anno fa erano, non dico snobbate, ma sicuramente non riscuotevano l'interesse che riscuotono adesso, ecco, quindi questo è positivo, ecco, dai. Almeno un po' di tutto l'impegno che ci abbiamo messo inizierà dovremmo cogliere i frutti. Anche te Simone, dopo 20 anni che fai podcast, magari iniziare a guadagnare qualcosina. Ma magari c'è mia moglie che ancora mi segue con lo scopettone. Va bene, dai ragazzi, comunque questa sera è una di quelle puntate un po' interlocutorie, insomma, di Quando eravamo futuro, però è una puntata che invece di parlare di magari cose specifiche, situazioni o magari esperienze, roba del genere, andiamo a parlare di quelle cose un po' che piacciono, insomma, un po' a noi nerd, no? Quindi andiamo a parlare un po' di tecnologia, di elettronica, cerchiamo anche di raffrontare. Però prima di partire, io non so, mi era venuta in mente questa cosa, non so. Così. Che io voglio ricordare che gli anni 80 erano sì la speranza verso il futuro, le luci, i colori, quel momento di grande ottimismo verso un mondo che ballava e suonava, però era anche il periodo della grande bruttezza dove uscivano questi personaggi tipo David Zedd, che insomma molti di noi ricorderanno sicuramente, tra l'altro abbiamo fatto. Io non ricordo mica con bruttezza, anzi piacere, la canzone che per me è bellissima. Era bellissima, vabbè, è perché pure tu sei un po' la bruttezza degli anni 80. comunque, al di là di questo, tra l'altro abbiamo fatto una ricerca con Davide, perché ci domandavamo, ma è morto David Zedd? E invece no, ancora in lotta fra noi, perché insomma ancora non si vergogna neanche oggi, insomma, di fare... Guarda che è incredibile, perché se lo guardi è rimasto identico. Uguale, sì, vabbè, è vero pure che è tutto un po' matato, cioè nel senso comunque... Però si è mantenuto bene, ecco. Sì. No, vabbè, però cioè, nel senso, io poi ci scherzo sopra sul discorso della bruttezza, però diciamo però, che no, aspetta un attimo, raccontiamo però ai nostri ascoltatori, perché sì, non è detto che tutti sappiano. Hai ragione. Noi parliamo per assunto, come per dire, ormai lo sapete tutti cos'era quella roba brutta di Zedd, che invece per me era bella, però molti non lo sanno, quindi vai. Se puoi raccontarlo tu. No, vai, che io però me lo ricordo a malapena, cioè nel senso, me lo ricordo perché mi ricordo in televisione questo e si muoveva tutto così, ma vabbè, perché era un periodo in cui gli anni 70, tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, il futuro rappresentava qualcosa di era l'hype, no? Come per dirlo, nel momento l'hype del momento era il futuro, no? Il futuro, perché andavamo verso anni in cui la tecnologia sembrava che stesse esplodendo, ma infatti era così e dovesse cambiare il mondo, e infatti è stato così. Però diciamo che a quell'epoca non si sapeva come il mondo sarebbe cambiato, e quindi le previsioni del futuro erano androidi, robot che erano tra di noi, che parlavano con noi, che ci servivano, quindi si pensava macchine volanti, sì, ma nel caso specifico si pensava che i robot sarebbero diventate una normalità nel futuro, cosa che invece, come avevo visto, non è successo. Cioè è successo, ma i robot sono molto diversi da come ce li immaginavamo, insomma. Adesso piano piano, no? Ho visto alcune cose carine, però diciamo che, come dici tu, sì, è la tecnologia, era il futuro, vedevamo quel tipo di futuro lì, però è vero pure che nell'immaginario collettivo alla fine tutto era un po' più semplificato, no? Tutto reso un po' più dal cinema, una console, esatto. Dicevamo prima fuori onda con Davide Gatti, cioè un quadrato, un tavolo con tutte le luci che lampeggiavano, era il futuro, cioè nel senso era comunque esatto. La super tecnologia, insomma. Sì, ma nel caso di Zedd cos'era? Era la visione di questi robot che vivevano tra di noi e che ci servivano e comunque erano nostri compagni di vita, che era una visione comune, come giustamente hai detto, nel cinema, perché anche nel cinema e nella televisione, nello spettacolo, c'era il famosissimo, a livello internazionale, Max Headroom, no? L'essere sintetico che parlava alla televisione, sì, che sembrava un uomo, che poi abbiamo scoperto anni dopo che era realmente un uomo travestito, quando noi ingenui pensavamo fosse... Io non l'ho mai pensato che era generato dal computer, devo dire la verità, però insomma, io sì, quando ero un piccolo ci ho creduto per un attimo, poi dopo l'ho scoperto quasi subito. Che delusione. Ma, poi esatto. E Zedd era, lui faceva il robot, era un uomo che si travestiva, italiano ovviamente, che nelle trasmissioni della Rai, io me lo ricordo a Pronto Raffaella, credo, la trasmissione con Raffaella, sì, no, ma anche al festival, anche al festival di Sanremo, molto popolare in Italia, ma in non è Italia, italiano, ok, non è italiano, però era nella TV TV italiana. Ecco, sì, è nato nella TV italiana, praticamente TV italiana. È popolarissimo. E sì, sì, però lui non era italiano, non moriva da Augurio. Ma anche al Festival di Sanremo, comunque, è stato, cioè, nel senso, quindi. Si muoveva come con movenze robotiche, in realtà da mimo praticamente, anche bravo, ed era vestito con la, al posto dei capelli aveva una parrucca di plastica e diciamo truccato in modo da sembrare sintetico, no? E parlava con questa inflessione robotica che era, in realtà utilizzava credo il vocoder, giusto? Questo però l'esperto è Davide. In realtà parlava molto poco. Sì, no, insomma, era più un flanger. Capito, una cosa così, su un effetto, un phaser, un distorsore, sì, niente di. Comunque, diciamo che era fatto bene, perché comunque aveva un travestimento che all'epoca comunque era molto più avanti di anche qualche film, certo. Addirittura. Sì, era fatto molto bene. Sì, poi c'è sempre questa cosa dell'immaginario collettivo che il robot stava sempre con le braccia tese e si muoveva con queste braccia dritte, no? Che poi un po' riprende pure da Star Wars, no? Perché alla fine assolutamente di 3PO così si muoveva, insomma, se esatto. Vedete, no? Cioè, nel senso, e quindi alla fine l'immaginario era quello, cioè, perché in realtà credo che dipenda molto. Non so se sì, è nato questo tipo di movenze anche nell'hip hop, non so come si chiamasse la musica rap dell'epoca, degli anni 70, inizio anni 80. Ce lo spiegava anche Michael Jackson quando faceva vedere i suoi balli, che diceva che molti nascevano da questo muoversi robotico, che era nato un po' da quel punto di vista lì. Poi dopo l'abbiamo portato da tutte le parti. Beh sì, Michael Jackson stesso alla fine faceva questa dance molto scattosa, no? Se tu ti ricordi, no? Movimenti molto secchi, molto rapidi, no? Quindi alla fine era con, diciamo, una tendenza generale. Però lui era particolare perché comunque alla fine faceva sta robot dance, no? Cioè, nel senso, comunque lui. E la canzone, infatti, si chiama Robot. Tra l'altro, Robot come si usava all'epoca, erano molto spesso veniva indicato così, che non esiste, perché lo sappiamo che robot è una parola russa, giusto, se non mi ricordo male, o comunque che vuol dire lavoratore o qualcosa del genere, o schiavo. Sì, sai che l'avevo, me lo ricordavo io sta cosa, però adesso in questo momento non so, Michela, se ci sta ascoltando, se ci può venire. Io la trovo subito, ma era qualcosa, e cecoslovacco, sì, ma me lo ricordavo robot. Io sta cosa erano gli automi che lavoravano al posto degli operai, che deriva da robota, che vuol dire lavoro. Sì. Quindi robot deriva dal cecoslovacco robota. Tra l'altro mi pare che dallo stesso, più o meno, insomma, le stesse aree geografiche deriva anche la parola sabotaggio, perché i sabots erano. No, quello era francese. Era francese, sabot, tipo, sì, sabot, e vuol dire. Che erano, sì, delle ciabatte, delle cose. Lo zoccolo di legno, perché era durante la rivoluzione industriale, quando c'erano i primi moti operai. E filavano usavano lo zoccolo per metterlo negli ingranaggi delle macchine, esatto, sì, tessili, esatto. Per bloccarle, quindi era, le rompevano, facevano il sabotaggio. Ma quante ne sai, Carlo? Ma quante ne vabbè sai? Questa la sapevo pure io, insomma. Vabbè, questa era abbastanza la sapevi anche tu, però tu avevi detto che era non mi ricordavo l'origine del termine dal punto di vista etimologico, però mi ricordavo che era legato a questa parola sabots, quindi insomma alla fine Sabò, che poi in realtà credo che ogni tanto il sabò si dica ancora in termini di moda per indicare la calzatura tipo zoccolo, comunque tipo ciabatta, insomma, in francese. Bene, Davide, allora. Che sei stato un po' infortunato anche con la gola, quindi saremo di grosso supporto il più possibile. Cerchiamo di introdurre un po' quello che è un po' il tema, insomma, diciamo, di questo episodio, cercando di fare anche dei raffronti, insomma, con, perché noi ci siamo ricordati delle tecnologie del passato, degli anni 70 e 80, cercando anche un po' di rapportarle ad oggi. Tra l'altro vi annuncio che fra due settimane la puntata sarà interamente dedicata a Spazio 1999, proprio per la stessa ragione, cioè proprio perché prenderemo Spazio 1999, lo racconteremo a grandi linee, elimineremo quello che è il discorso fantascientifico, cioè sul fatto che questi stavano sulla Luna già in pianta stabile, e cercheremo di raffrontare quella della tecnologia di spazio 1999 con quello che sarebbe possibile oggi, cioè nel senso che anche lì vedrete, ma questo è un esercizio che abbiamo fatto già tante volte, ci siamo già divertiti in questo, però insomma è sempre carino, perché quella è una serie che tra l'altro io sto rivedendo proprio in questo momento, che stavo facendo su RaiPlay con la versione restaurata, quindi tutta bella pulita, e vi consiglio di vederla, perché nonostante essere una serie degli anni 70-80, comunque dal punto di vista del ritmo ancora regge, cioè nel senso rispetto a tante serie di allora che sono invecchiate un po' tanto pure dal punto di vista del ritmo, della lentezza, diciamo che regge, insomma, ecco, quindi vabbè, poi ne parleremo, poi ne parleremo. Vai Davide, tra 15 giorni 15 giorni correggo. Bravo, bravo, 15 giorni. No, niente, no, allora l'episodio era... No, niente, allora basta, andiamo a casa. È un intercalare che viene sempre, questo, che si parla dicendo niente, oppure sì ma no. comunque, vabbè, dicevo, in questo episodio appunto vogliamo un attimo ripercorrere questi momenti in cui noi da ragazzini, ovviamente parliamo con eravamo ragazzini, vedevamo la tecnologia. Scusa Davide, Michela ci dice in russo lavorare si dice rabota, quindi anche lì evidentemente, essendo sempre più o meno un ceppo slavo la lingua, più sì, o meno sì, penso sì, che sì, si assomiglino per assonanza parecchio in quelle zone lì, ecco. Dicevo che quanto rimanevamo stupiti nel vedere la tecnologia che avanzavano, noi l'abbiamo vissuta anche abbastanza intensivamente questo avanzamento tecnologico, perché su determinate cose siamo partiti dalla matita alla gomma e siamo arrivati a delle cose incredibili, no? Quindi siamo partiti dal niente o poco, che all'epoca era tutto, ma abbiamo visto veramente un'evoluzione, però all'epoca noi l'abbiamo vista con tanti step, abbiamo visto tante piccole evoluzioni o grandi evoluzioni, e siamo rimasti stupiti tante volte nel vedere queste novità che arrivavano, no? E in quegli anni ci immaginavamo, quindi vedendo tutti questi avanzamenti, che cosa sarebbe successo nel 2000, sai, tutti ci domandavamo nel 2000 succederà, le macchine che volano, i robot che ci fanno il caffè, che lavorano per noi, che ne so. E invece poi alla fine oggi analizzeremo un attimo così un po' anche velocemente, ma cos'è successo veramente poi, no? Cosa è capitato davvero? Perché noi ci siamo immaginati veramente tante cose, ma poi alla fine qualcosa si è realizzato, qualcosa no, ma chi lo sa. Comunque adesso torniamo un po' indietro nel tempo con i ricordi e verifichiamo un po' magari com'è andata su qualcosa, qualche oggetto, qualcosa che abbiamo visto direttamente. E appunto lo dicevo all'inizio, no, non l'ho detto, l'ho scritto all'inizio dell'episodio, sicuramente molte delle cose di cui parleremo oggi magari le abbiamo citate in qualche altro episodio che abbiamo già fatto, perché poi alla fine magari raccontiamo di una certa cosa e dentro ci andava a finire una piccola cosa che noi oggi racconteremo. Diciamo che oggi è una raccolta un po' di tante cose che magari un po' in qualche modo abbiamo già citato, ecco. Sì, magari cercando anche, perché poi alla fine nel pensare questa puntata sono venute anche a me tante curiosità, tante cose che io non so, no? Cioè nel senso e che magari chiamavo in una determinata maniera e magari era tutta un'altra cosa, no? Perché comunque poi, come succedeva spesso, no? Quando noi vedevamo un qualche cosa pensavamo che funzionasse in una determinata maniera, no? Perché lo sentivamo dire, e magari se non approfondivi in realtà per te quella cosa rimaneva così anche per decenni, no? Fino a che arrivava qualcuno e diceva no, guarda che non era così, era in un'altra maniera. Per esempio io parto dal presupposto, dallo spunto, no? Cioè uno degli spunti che io ho sempre tirato fuori anche con voi è il fatto delle luci LED, no? Cioè le lampadine, sì, le lampadine LED, no? Che una volta, io perlomeno ricordo così, poi ecco Davide magari e Carlo mi aiuteranno insomma a sfatare anche questo mito, venivano utilizzate come pallino nei dispositivi, nei televisori, nelle cose che erano accese o spente o che stavano funzionando, no? E E oggi invece il LED viene utilizzato come fonte di illuminazione, cioè nel senso come se noi a un certo punto ci siamo resi conto che queste piccole lampadine che avevamo inventato, cioè cazzo, però possono essere più utili di così, no? Oppure io dicevo che tante volte venivano utilizzate magari come retroilluminazione sulle calcolatrici, e Carlo giustamente dice: guarda, che secondo me non era quella tecnologia che illuminava il display delle calcolatrici. Ecco, magari, ecco, già partendo da questo, no? Che so, curiosità anche stupide, però insomma secondo me poi alla fine ci possono stare, anche per capire che ci sono determinate cose che sono un po' perdurate negli anni fino a che magari non si sono anche trasformate. Sì, guarda, sui LED una curiosità così veloce: le LED sono sempre state utilizzate come spie luminose che hanno quasi, diciamo, nel momento in cui sono state create, hanno quasi subito sostituito le lampadine, anche perché consumavano di meno, erano più piccole, funzionavano bene, eccetera eccetera. Quindi le abbiamo cominciate a vedersi diffondere molto come appunto spie luminose, tu la ricordi, sui televisori, però ci sono ancora oggi, tutto sommato. Sì, sì, il mio televisore ancora ce l'ha il piccolo LEDino rosso. Sì. Diciamo che è stato utilizzato diffusamente come spia luminosa generica anche sulle automobili, dappertutto. Però la vera svolta che ha cambiato il ruolo del LED nel mondo, proprio, cioè in maniera globale, è stato il momento in cui è stato inventato il LED blu. Fino a che non c'erano i LED blu, i LED erano relegati a lucette, così, perché non si può fare molto altro, anche perché facendo pannelli luminosi sinottici comunque il blu ti mancava, cioè lì sempre solo, sì, il rosso, anche, e il verde, anche giallo. In realtà mi ricordo che c'erano i pannelli a LED che facevano le scritte eccetera, sì, però sì, erano solo rossi o verdi o gialli, esatto, e con quei colori anche le automobili. E pensate che il LED blu è nato principalmente per risolvere un problema nel campo automobilistico, e fondamentalmente, se non ricordo male, Bosch era dentro il gruppo di quelli che ha portato a commercializzare questo LED, perché serviva il LED blu per gli abbaglianti e non riuscivano a fare un pannello completamente a LED sulle auto perché mancava il LED blu. Alla fine, insomma, l'hanno fatto, e da lì in poi è esploso proprio in maniera, cioè, il LED blu consente anche di fare il LED bianco, sì. E di conseguenza, diciamo, sono riusciti a fare tutti i colori esistenti, e quindi non c'è stato più motivo davvero quasi che potessero esistere le lampadine come spie luminose. Poi la tecnologia ovviamente è andata avanti, gli assorbimenti sono diminuiti, le rese luminose aumentate, ed oggi ce li troviamo come diceva prima Simone, ormai la lampadina LED è la lampadina, non esiste più altro tipo di lampadina praticamente. Cioè, sì, anche perché quella incandescenza mi pare che è stata bandita, tra l'altro. No, è stata bandita, però volendo quelle fluorescenti potrebbero ancora esistere, no? E che risultano ancora essere a basso assorbimento e poco dannose. Però anche quelle sono ormai scomparse e sostituite dalle lampadine a LED, anche perché il LED veramente ormai non ha resa tale che... E oggi il LED lo troviamo, vabbè, io non voglio parlare del mio canale YouTube, che fondamentalmente è basato sui LED, insomma. È basato sui LED, quindi va bene, però se guardate attorno oramai è... Sì, sì, no, vabbè, ma questo è chiaro che è così, insomma, no, però ecco, per esempio il Davide, sì, Carlo mi diceva che probabilmente quelle retroilluminazioni, no, di alcuni display, di alcune, sì, calcolatrici, erano elettroluminescenti, non c'era il bianco, esatto. O erano elettroluminescenti quelli, diciamo, degli orologi LCD, oppure per avere l'elettroilluminazione bianca si utilizzava i tubi fluorescenti. Ma io infatti la retroilluminazione bianca non l'ho quasi mai vista, ho sempre visto o verdi o arancioni, ad esempio, no, tanto per... Cioè io ricordo che c'avevo un cerca persone, cose diverse, allora. Ah, ok. Sì, sì, no, comunque diciamo che per un certo periodo, per questione di assorbimento, perché comunque i LED negli anni nostri, negli anni 70-80, consumavano tanto, consumavano abbastanza, quindi si tendeva a usarli là dove proprio si poteva. Si usavano le retroilluminazioni elettroluminescenti, che sono una roba differente che assorbiva poco, ed era quella che, se vi ricordate, gli orologi Casio che si accendevano verdini, non so se ve li ricordate. Sì, sì, sì, mi ricordo. Ecco, quel verdino lì era un elettromilescente che assorbiva quasi zero, però aveva un decadimento molto elevato perché è fatto da materiale organico, quindi durava un anno, poi perdeva quasi tutta la luminosità. e aveva questo difetto, però consumava poco. Poi dopo, per fare invece forse quello che dice Carlo sui display, quelli a colori che mostrano tutti i colori, insomma un display a colori ha bisogno di una retroilluminazione bianca. Sì sì, no, io parlavo proprio del anche delle calcolatrici, no, c'erano dei display a striscia, no, che c'erano, che se classici. Tu andavi a vedere tante volte c'erano delle lucine ai lati, no, che, cioè, nel senso tu andavi a vedere sotto al, cioè nel senso ti piegavi tutto, no? C'erano una lucina a destra, una lucina a sinistra che illuminavano, e a volte erano anche colorate, o rosse o arancioni, o addirittura c'erano alcuni dispositivi come il cercapersone, che poi dopo, dico, dopo parleremo, perché magari alcuni non sanno neanche cosa sia, che c'avevano le opzioni per cambiare il colore, no? Se vi ricordate, no? C'era, allora, quello era sicuramente LED, da arancione a blu, a verde, a, no, insomma, blu, blu no, no, blu forse no, full blu no, forse no, hai ragione, sì sì, verde, rosso e arancione, che era la somma di verde, sì, più, ah, verde, rosso e arancione, bravo, esatto, sì sì, yeah, bravo, sì sì, perché però rosso, certo, rosso era inapplicabile, perché, cioè, nel senso, non sapete anche, cioè, no. Per esempio i LED, con i LED si riuscivano a fare i semafori, perché esistevano i tre colori del semaforo, sì, e difatti quasi per primi nel campo illuminotecnico sono stati utilizzati dei semafori, perché i semafori, esatto, avevano grossi problemi con le lampadine, che l'omino doveva andare lì a cambiare la lampadina ogni volta che bruciava, certo, certo, la lampadina del semaforo. Con le LED questo problema era economicamente risolto, costava di più di una lampadina, ma non dovevi più cambiarla. Beh, io la prima volta che ho visto un semaforo LED negli anni 90 era in Svezia, stavano veramente anni avanti, e mi rimasi folgorato da sta cosa, perché in pieno giorno sti dei semafori stavano benissimo, cioè proprio, sì, sì, sì, la luminosità era molto più elevata, esatto, la luminosità. E poi dopo anni, qualche anno, diversi anni, insomma, ho cominciato a vederli anche a Roma, piano piano si sono diffusi, sì, sì, sì. E io oggi mi ricordo che la prima volta che mi sono accorto di aver visto a Milano un semaforo a LED, perché ho detto, ma che verde strano, perché il verde non era il solito verde a cui il verde ero, smorto, esatto, ma era un verde che era acceso, sembrava, sì, quasi, sì, un verde azzurro, azzurrino, e, sì, e allora lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, poi io ho capito che erano i semafori a LED, insomma, ecco, quindi, sì, comunque sì, era stata una delle prime applicazioni, me lo ricordo anch'io abbastanza, mi è rimasto impresso, insomma, questa. E qua ripensando a quei tempi, se noi tornassimo dietro quei tempi, appunto per i LED io non mi sarei mai aspettato che i LED sarebbero poi diventati così diffusi e avrebbero sostituito in toto la classica lampadina. Beh, perché non c'era la percezione della potenza di illuminazione, poi, alla fine, cioè, nel senso, in realtà il LED allora non è che faceva tutta la luce che fa il LED, no, no, che tu c'hai dentro casa oggi, esatto, insomma. No, no, ma tutte le tecnologie del passato ovviamente non fanno quello che fanno oggi, però diciamo che questa è una di quelle cose che noi, sai, negli anni 80 eravamo pieni di neon, invece, vi ricordate? Neon era, sì, onnipresente, sì, il neon, sì, sì, neon, perché il neon era ancora a maggior ragione il neon, che tra l'altro lo potevi fare anche colorato, cioè le, esatto, scritte, era malleabile, era flessibile come tipo di gestione delle insegne e roba del genere. Il neon era il futuro, cioè neon era futuro, cioè, nel senso, infatti, dove c'era il futuro tu ci mettevi neon, esatto, no? Esatto, esatto, tutta la letteratura cyberpunk, i film cyberpunk, tu sei neon, cioè neon ovunque, cioè, nel senso, neon, viola neon, capito? Ma cioè, anche nei film di oggi, se si fa, sì, si va nel futuro cyberpunk, tutte le illuminazioni sono neon, sì, però oggi la concezione dell'illuminazione anche nelle scenografie è molto condizionata da quello che il neon ha portato oggi nelle nostre case, perché oggi il neon, essendo anche una luce a volte potenzialmente anche potente, viene utilizzata come luce indiretta, quindi le fasce magari nascoste, tu vedi tanti appartamenti adesso che hanno praticamente i quattro angoli del soffitto tutti con le strisce LED, cioè, quindi se tu vai a vedere, no, questo ha influenzato, cioè, i camper, cioè, per dirti che è una cosa che mi piace oggi, tutta la illuminotecnica del camper è tutta basata su questo approccio un po' fantascientifico che hanno i LED, no? E alla fine questa cosa ha condizionato anche anche quello che noi vediamo nella fantascienza oggi, cioè immaginandoci un futuro lo immaginiamo un po' come si faceva negli anni 80, così come era il massimo del progresso illuminotecnico che potevamo fare noi, insomma. Quindi ecco, cioè alla fine comunque LED oggi ha veramente, secondo me, influenzato la società, no? Come il neon ha influenzato la società negli anni 80. Il neon, oh ragazzi, cioè era tutto neon alla fine, cioè. Sì, vai a vedere Blade Runner o quei film lì che guardavano al futuro, anche futuro prossimo, era qualsiasi cosa era coi neon che illuminavano di tutti i colori, che poi in realtà alla fine siamo così, solo che al posto del neon ci sono i LED, però concettualmente alla fine ci siamo arrivati, ecco. Esatto, abbiamo cambiato tecnologie e siamo riusciti a fare quello che una volta tanti magari avevano immaginato. Io non l'avevo immaginato. Intanto salutiamo Siculus che è entrato in chat diretta runtime. Ciao e benvenuto. Ciao Siculus. Sì. Gli orologi, Davide, gli orologi. Allora, gli orologi da polso. Allora, gli orologi da polso sono iniziati quelli tecnologici. L'orologio classico meccanico era quello che tutti noi conoscevamo. Esatto. Un certo giorno è uscito l'orologio digitale. Forse l'abbiamo visto in qualche 007 noi per la prima volta. Visto, poi dopo l'abbiamo visto anche dei negozi, però abbiamo visto al polso di 007 questo orologio che schiacci il bottone, scrive i numeri e noi lo voglio, a parte che costava uno stipendio. E da lì, anche lì, l'orologio appena uscì, il primo orologio digitale, noi tutti, io rimasi stupito, non so voi, ma insomma, mi colpì molto e assolutamente era la mia visione del futuro, era quella, cioè quello dell'orologio digitale, le lancette addio. E poi da lì ovviamente c'è stata un'evoluzione che abbiamo visto in tante facce, con gli orologi a cristalli liquidi, la Casio che ha fatto ogni tipo di orologio a cristalli liquidi con calcolatrice, con qualsiasi cosa possibile l'ha inventato, parlo degli anni 80, ce n'erano veramente tantissimi tipi. E anche qua poi vabbè, sono cominciati a uscire orologi che suonavano, che facevano musiche fantastiche di tutti i colori, però anche qua, almeno per quanto mi riguarda, sempre in quel periodo e guardando oggi dove siamo arrivati con gli orologi, mai mi sarei aspettato di vedere che saremmo arrivati a quello che oggi appunto abbiamo nei polsi con gli smartwatch e con questi orologi che ormai sono fondamentalmente dei telefonini quasi, se vogliamo. Io invece, se devo dire la verità, scusa se ti interrompo, io pensavo ci arrivassimo prima, a dirti la verità. Allora, io lo so, perché me ne avevi già parlato di questo, ne avevamo già parlato e mi dicevi che tu invece la tua visione era più che strano che non ci siamo arrivati qualche anno prima. Esatto. E io invece negli anni 80, quando vedevo l'orologio Casio con la calcolatrice, con i bottoncini microscopici, e quando poi successivamente, sempre negli anni 80, ho visto quella con la televisione, che era sempre una roba fatta vedere sul 007, che in realtà l'orologio era solo il display, poi con un filo andava a finire a uno scatolotto che ti dovevi tenere da qualche parte, che era grosso come un borsello. Vabbè, noi dovevamo considerare tutte queste cose, che anche se sono state commercializzate erano comunque sperimentazioni, erano idee, era tutto un bollore dei cervelli, capito? Cioè nel senso, no, tu vai a vedere gli orologi della Casio, cioè che tu dicevi, cioè gli orologi della Casio avevano questa cosa iperavveniristica, no? Che costavano un occhio dalla testa e magari, cioè nel senso, li compravi solo perché, cioè, bramavi proprio il potere della tecnologia sul polso, anche i pulsantini, le cose che tante cazzo ci facevi, cioè nel senso, però c'erano ste luci, capito, che erano belli. Oppure io mi ricordo che mio cugino c'era quell'orologio che ti diceva l'ora, incredibile, ragazzi, quello che parlava. Sì. Per me rimanevo, sarei stato lì a spingere il pulsante ogni minuto, dimmi l'ora, cioè, nel senso, no, poi oggettivamente poi c'ha anche una sua funzionalità, volendo, no? Però era la voglia di futuro. E bravo, esatto. Ed è un punto che abbiamo nel nostro elenco qua, la sintesi vocale, che è una di quelle cose che c'è stato un momento particolare dove se non c'era un oggetto, chi produceva qualsiasi cosa non aveva in catalogo un oggetto che parlava, non era nessuno. Un tostapane, un qualsiasi cosa doveva avere qualcosa che parlava, no? Per cui abbiamo visto veramente di ogni, abbiamo visto vabbè, videogiochi sicuramente. Sì, è stato io mi ricordo negli anni 80 stava un Expo a Roma, ero piccolo e quindi fine anni 70, anni 80, adesso non mi ricordo, stavo mio padre e c'era questo prototipo praticamente del registratore di cassa che mentre che venivano digitati i vari prodotti ti diceva i numeri e poi ti diceva il conto, cioè nel senso diceva il conto finale e quello avrebbe dovuto diventare uno standard poi alla fine e tutto sommato da un certo punto di vista magari per gli ipovedenti, non vedenti, tutte le cose magari che comunque mettevano potevano anche averci un senso. No? Però magari allora c'era un costo che era fuori scala, capito? Per una piccola distribuzione, per il supermercato. Sì, sì, perché oggi noi siamo abituati ai grandi magazzini, ma una volta si ragionava ai piccoli supermercati, alla pizzicheria, sai? Quindi insomma. Sì, le botteghe. Sì, sì, no, certo. Poi a parte che il registratore di cassa in quegli anni non era nemmeno un obbligo, per cui magari nessuno, magari non ce l'avevano nemmeno. Si dava carta, si faceva il conto su foglio di carta. Quindi ce l'avevano in pochi, solo questi negozi di catene o cose del genere. Il negozietto piccolo difficilmente ce l'aveva, o se ce l'aveva ne aveva uno quasi meccanico o giù di lì, di quelli che non erano così elettronici. Comunque sì, registratore di cassa per dirne uno, ma anche nelle automobili c'è stata una serie di auto Renault futuristiche, tutto con i display a LED eccetera, che parlava e che diceva un sacco di robe. E in quel periodo la sintesi vocale era anche un pochino faticosa da capire, soprattutto nella lingua italiana, perché comunque gli sviluppi sulla sintesi vocale veniva fatta ovviamente in America e quindi parlava molto bene magari in inglese, nelle altre lingue insomma ci è voluto un po' di anni prima. Salutiamo anche Marco Valleggi che ci è venuto a trovare su Direct Runtime. Ciao Marco. Grande Marco, siamo ospite d'onore stasera, un ascoltatore importante. C'ha un orecchio, appena stampato due belle orecchie giganti, per cui ci sente con quattro orecchie adesso. No, ha stappato due orecchie perché ha fatto una specie di testa virtuale per l'ascolto, per fare le misure di ascolto, e ha simulato una testa con le orecchie dove ci metti la cuffia sopra e fa le misure precise di come sentirebbe un uomo, ecco, no? Ha disegnato l'orecchio apposta, vabbè, con dentro dei microfoni. Dicevo, quindi la sintesi vocale, vabbè, all'epoca era una cosa che ovunque la vedevi, te l'aspettavi anche in qualche modo, però ti stupiva perché dici, cacchio, questo parla, senti, dentro c'ha un cervello, c'ha un cuore, qui c'è qualcosa di umano dentro, no? In realtà non era così ovviamente. E anche qua ci siamo, all'epoca forse ci siamo, io mi sono aspettato di vedere nel futuro sicuramente evoluzioni e di riuscire a parlare sempre meglio, e in effetti oggi devo dire che ci siamo arrivati, e forse ci siamo arrivati. A volte oggi mi stupisco, qualche volta no, ma qualche volta sì, del risultato che stiamo ottenendo, soprattutto per esempio con le sintesi vocali che Carlo ci riesce ad ottenere non so dove. No, ma adesso tra parentesi ne ho sperimentata una proprio ieri, che è incredibile, una voce di uomo, mentre prima l'ultima in italiano che avevo a disposizione era una voce di donna, adesso hanno reso disponibile anche la voce dell'uomo, con l'intonazione e tutto gestita da intelligenza artificiale aperta e chiusa, certo, virgolette. Sì, vabbè, comunque da deep learning esatto, ma un'inflessione, una qualità di voce incredibile, cioè veramente quando l'ho sentita ho detto gli speaker sono morti. Ma infatti guarda, nel servizio che utilizzi tu, dove ci sono tutte le voci classiche italiane che troviamo un po' dappertutto, no? Che sono buone, ma insomma si sente che sono comunque delle sintesi vocali, c'era quella fatta con intelligenza artificiale donna, che abbiamo utilizzato anche in runtime per fare ovviamente i vari speech. Ma poi io ho portato anche l'esempio di Replica, che Replica è legata un po' a tutto il grande progetto di Epic con Unreal Engine, internet e via dicendo, dove lì l'intelligenza artificiale arriva proprio all'acting, cioè non arriva più all'inflessione ma arriva all'intenzione recitativa. E vabbè, ancora è tutto molto in beta, infatti c'ha tanti limiti, tanti difetti, e a volte si sente insomma lo sforzo che fa la parte algoritmica, diciamo, nel fare un certo tipo di cose, però cioè, quando senti la voce indignata di quello, io sono, ovviamente tutto in inglese chiaramente, no? Però insomma è abbastanza soddisfacente la qualità ai quali siamo arrivati. E già io da diverso tempo sento degli spot su YouTube ma anche in televisione che sono spiegherati dall'intelligenza artificiale, e purtroppo questo è il bene e il male, no? Nel senso, nelle cose bisogna prendere atto del fatto che alcune professionalità devono essere un po' riconvertite, insomma, da sto punto di vista, per forza di cose, anche perché i costi, ragazzi, i costi in Italia sono rimasti importanti nonostante comunque il fatto che non è più competitiva una cosa del genere, insomma, no? Un'altra cosa, volevo solo concludere questo argomento per invece il contrario, il riconoscimento. Voi tutti vi ricorderete che ci sono stati molti esperimenti negli anni 80 di riconoscimenti vocali, sì, anche negli anni 90, 2000 eccetera, sempre abbastanza deludenti, e su questo non ho mai confidato. Noi vedevamo film già negli anni 70 di persone che parlavano al computer e gli rispondeva come se tutto fosse già negli anni 60. Star Trek lo faceva esatto, negli anni 60, quindi era già si parlava previsto, si conversava tranquillamente, sì, ed era fantascienza. E fino agli anni, secondo me anche fino agli anni 2000 era ancora fantascienza parlare in maniera abbastanza, sì. Invece oggi devo dire che insomma sì, c'è qualche piccolo intoppo, però tutto sommato siamo arrivati a dei livelli abbastanza io mi ricordo negli anni 90 tutti i giorni con Google, con Alexa, con Siri eccetera. Io mi ricordo che negli anni 90 c'era un software su Windows che ti permetteva di dare i comandi a Windows vocalmente, che poi funzionava. Sì, un po' funzionava, però insomma c'era Dragon Dictator, bravissimo. Però bisognava istruirlo, bisognava leggere, mi pare un bel 2-3-4 paginette di Moby Dick, sì, per insegnare. No, dai. Vabbè, quello però pure la prima versione Cortana poi è stato così, comunque ti diceva delle leggi, delle cose così. Anche Alexa, se non dico male, all'inizio c'era il training prima enormi basi di dati analizzate che hanno adesso, che con il deep learning su quintali di tonnellate di miliardi di miliardi di miliardi di audio registrato, finalmente hanno creato dei modelli che riescono a capire insomma quello che diciamo in maniera anche miracolosa a volte. Ho visto in azione degli strumenti che fanno la trascrizione automatica, professionali, che ti riconoscono anche due o tre voci che parlano contemporaneamente, te le separano con persona 1, persona 2, persona 3. Beh, come quello che ha fatto oggi con Premiere, no? Esatto, sì, anche se lì, vabbè, detto bellissimo, però in realtà non mi è sembrato tanto diverso da quello che fa. No, vabbè, bellissimo, perché non mi aspettavo insomma un certo livello, insomma, che comunque ti sbobbina insomma un buon 40% 50% del lavoro, cioè se tu lo dovessi fare a mano, quindi comunque ci sta il fatto che tu ci debba rimettere. Tra l'altro programmi di trascrizione come il bot che tu hai messo su Direct Runtime, che ovviamente, esatto, adesso nessuno fa più vocali perché ci vergogniamo di quella cosa che escono fuori, insomma. Allora, io lo metterei dappertutto, che vuoi. Comunque volevo dire invece una cosa, dato che noi quando eravamo Futuro abbiamo parlato spesso di come facevamo una volta quando non esistevano i cellulari, che poi in realtà, diciamo, quando non esistevano i cellulari, ma in realtà il telefono mobile già esisteva, no? Soltanto che era, diciamo, fuori portata per la gente comune. E allora un oggetto, diciamo, che ha portato una sorta di transizione iniziale, secondo me ha un po' creato un po' una schiavitù, che veniva utilizzata da un certo tipo di categoria di professionisti, ma poi si era un po' estesa sta cosa, perché io non ho visto insomma girare diversi, ce l'aveva mio fratello, ce l'avevo anch'io a un certo punto, era il cercapersone, il teledrin, che vabbè, che poi era il cercapersone fondamentalmente, sì. Dove praticamente tu ricevevi nei più basici, ricevevi il numero telefonico della persona che ti aveva chiamato, e tu dovevi cercare una cabina o qualsiasi situazione e richiamare la persona che ti stava cercando. Quindi già vedi che c'era, incominciamo a essere sentirsi un po' schiavi, perdere quella libertà, no? che perdevamo. E in quelli un po' più evoluti addirittura potevano arrivare piccoli messaggi, cioè nel senso comunque SMS, diciamo SMS, sì, diciamo insomma forse più brevi degli SMS 240 caratteri, no? Ecco, il cerca persone è stato secondo me uno di quegli strumenti che in quel momento ti dava la sensazione di essere connesso, rintracciabile, e quindi nel futuro. Ecco, questa è una cosa che se tu pensi oggi il cerca persone, magari se io lo dico a Matteo, dice a 22 anni, lui mi dice cerca persone che cazzo è, no? Nel senso, anche se credo che ancora esistano poi in realtà da qualche parte cose, penso che ormai cose simili, no? Dici no, strumentini perché... solo che ricevono messaggi non esistono, vabbè, perché no, in realtà hai ragione, basta col telefonino, esatto, con qualsiasi cosa, hai ragione, sì. Okay. Diciamo che all'epoca funzionavano in radiofrequenza, quindi erano dei ricevitori radio e che costavano poi gli abbonamenti, sì, ricordiamo, sì, che era più alla portata di un telefono Etax, diciamo, insomma, quando hanno cominciato a uscire, no, che le bollette costavano un sacco di soldi, i telefoni però cioè comunque l'abbonamento non è che era gratis, insomma, poi... no, anche perché comunque poi funzionava solo in certe realtà, non era operativo in tutta Italia, ovunque c'era un certo raggio di copertura, perché comunque bisognava fare sti ponti radio che trasmettevano. Mettevano, adesso non mi ricordo la frequenza, sarà 72 MHz o qualcosa del genere, e cerca persone comunque era dei ricevitori radio con la trasmissione semi digitale audio che convertiva i numeri, quello che riceveva i numeri che venivano fatti apparire sul display. Forse i primissimi addirittura erano per i più vecchi in assoluto non avevano neanche un display, avevano dei numeri memorizzati dentro e ti si accendeva un display numerico a te che ti diceva il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4, quindi la trasmissione era limitatissima. Poi sì, dopo sì, pian no, piano però sì, veniva utilizzato tante volte in ambito medico, no? Cioè, nel senso, comunque, sì, i dottori, tutti i medici, comunque quelli di pronto intervento devono essere comunque rintracciabili o comunque sempre disponibili. E poi l'hai avuto anche tu, vuol dire che l'hanno avuto anche gli storoni che volevano far vedere. Esatto. Ma io poi ero ragazzino, ecco. Io ero ragazzino, perché mi ricordo che lo comprarono per l'agenzia di mio padre, dato che mio fratello già lavorava lì, ne presero 6-7 tipo a pacchetto, perché sai, insomma, era un periodo anche dove si spendevano soldi inutilmente, e quindi io mi ricordo che sulla cintura avevo appeso sto coso, ogni tanto ti poi serviva anche se io non lo considero, almeno tu hai detto questo ti dava l'idea del futuro, di essere connessi. Io invece devo dire che il cerca persone, almeno è una mia opinione personale, all'epoca non lo vedevo assolutamente come qualcosa di futuro, futuribile, che mi desse l'idea del futuro, cioè era una roba costosa che serviva in certi ambiti come quello dei medici eccetera, ma che semplicemente la voglia di averlo o chi ce l'aveva era per far vedere che ce l'avevi, cioè era per sentirti una persona importante e ricercata, non tanto di essere sempre connesso, interconnesso eccetera. Questo concetto del futuro non era disponibile a tutti, era comunque... No, non era disponibile a tutti, sono d'accordo, infatti è quello che ho detto, ma non era disponibile a tutti perché era un oggetto costoso, ma non mi ha mai dato, ripeto, nella mia opinione personale, l'idea di qualcosa del futuro o di futuribile, era semplicemente una cosa per dire sono una persona importante, sono un medico, sono un avvocato, devo essere sempre reperibile, allora, e quindi mi trovi col teledrino, col cerca persone. Invece per assurdo mi ha dato l'idea del futuro quando sono arrivati i primi telefoni Etax, quelli che allora lì sì mi dava già l'idea del futuro, cioè quella possibilità di telefonare dappertutto, ma il fatto di avere cerca persone che mi chiamavano, che poi dovevo andare in una cabina telefonica, non mi ha mai dato particolare idea di futuro. No, vabbè, poi quella era comunque una percezione, però sai, in un ambito diciamo ricordava un po', cioè il fatto di essere comunque rintracciabile, di ricevere questo bip bip, a me faceva un po' film di fantascienza, no, per certi versi. Poi, poi è chiaro che insomma si dipende anche dall'età che uno c'aveva, no, quindi il modo in cui tu percepivi, a meno che non era indispensabile e quindi eri un professionista, se ce l'avevi ed eri un ragazzino era perché comunque facevi il pariolino, cioè facevi un po' lo sborone, insomma, diciamo, facevi lo sborone, esatto, sì, già, sì, per quello era chiaro, insomma, che era così, insomma. E... Giovanni Xiculus, per l'appunto, ci fa vedere una delle piccole vignette del 1929 che dice: quando noi avremo tutti un telefono portabile, e ci fa vedere degli esempi di quello che succede, no? E sono, e pensare che sono del 29 è incredibile. E prevedevano già bene e correttamente quello che sarebbe successo. Esatto, che ti suona il telefono mentre sei in teatro, che suona il telefono mentre sei in matrimonio, che sei in zone dove rompe i maroni, esatto. E stai facendo, stai avendo un evento importante, ti è appena nato il figlio, ti suona il telefono e tu devi mollare tuo figlio. Ci sono tutti gli esempi che dicono: pensa cosa potrebbe succedere, è proprio così. Esattamente così, esatto, non è che ci voleva molto. Però vabbè. Beh, comunque un altro oggetto che invece è entrato prepotentemente poi negli anni 70-80 nelle nostre case, che poi noi abbiamo assistito un po' alle grandi trasformazioni ancora costanti, perché ancora in essere poi fondamentalmente, e vabbè, sai, continuerà a trasformarsi chissà per quanto, però insomma noi abbiamo visto già 2, 3, 4 trasformazioni, no, di questo oggetto. Davide, che, quale potrebbe essere? Io, allora, su questo oggetto che, di cui parleremo, anch'io devo dire che, come Carlo, avevo il presentimento che sarebbe successo quello che più o meno è successo. Magari parlo della televisione, televisori nei nostri anni a tubo catodico era normale avere dei televisori di quel tipo. Però già ci immaginavamo che un giorno sarebbero diventati piatti, non si sa quando, non si sa come, ma ci immaginavamo già. Quando d'altronde Sir Clive Sinclair, no, era uno tra quelli che ipotizzava, insomma. No, lui era uno di quelli che ci provava. Che ci provava, sì, aveva prototipato qualche. Lo ipotizzavano tutti, poi Clive, lui tentava di farlo per primo. Fece qualche prototipo, se non sbaglio, insomma. No? Fece il famoso tubo catodico trasversale. Piatto, verticale, sì, non era proprio piatto, era diciamo schiacciato, diciamo così. E comunque diciamo che in quel periodo magari ce lo immaginavamo, però quando poi sono arrivati siamo comunque rimasti sorpresi nel vederlo, e quando l'abbiamo visto ci guardavamo dietro se effettivamente non c'era qualche cosa di strano, e invece no, era piatto per davvero. Sì. Magari non, ecco, questo l'ho scritto, non immaginavamo che si alzasse di risoluzione fino alle risoluzioni che oggi magari vediamo, ci immaginavamo che semplicemente lo riducevano, diventava piatto, i colori migliori, tante cose, però che si arrivasse ai 4K, agli 8K, eccetera. Vabbè, ma non sapevamo neanche che erano i 4K e gli 8K, cioè nel senso, non avevamo neanche il concetto, sì, esatto, insomma. Quindi era una cosa un po', cioè in realtà noi, però sì, comunque la risoluzione è un concetto che abbiamo adesso, ma se torni indietro in quegli anni non esisteva come concetto. Esatto, quindi non ci immaginavamo, cioè, non ci pensavamo neanche. Beh, poi ne parlavamo nell'altra puntata, no, dei mondiali del 90 con l'alta definizione, sì. No, se vi ricordate, esatto. C'era questa cosa dell'alta definizione che poi Carlo ci ha un po' spiegato, insomma, diciamo così. Comunque, esatto. Questo è una di quelle cose che, ripensando a quei tempi, ci siamo sì stupiti nel vedere gli avanzamenti tecnologici, ma ce li aspettavamo, tra virgolette, e ci sono poi riusciti a farlo. No, tu di un televisore dell'epoca, quanti televisori dell'epoca dovevano essere assemblati in griglia per fare il 4K? Per fare una TV a 4K allora dovevamo mettere una matrice di 3x3 cinescopi classici da 625 righe, per fare un equivalente di circa 4K, per risoluzione intendo, sì, sì. Avremmo dovuto affiancarne 3x3 per avere i 4K. E oppure fare un cinescopione gigante, no, ma non ce l'avremmo fatta perché non si poteva andare su quelle frequenze, si poteva magari simulare. Allora io ti dico due cose che mi ricordano, cioè che associavo al futuro relativo a questo tipo di dispositivi, che poi ci sono sempre stato legato, perché comunque col televisore, ma non in quanto oddio televisore Wanda Marchi, cioè nel senso il televisore, perché comunque il televisore mi permetteva di vedere le cose che mi piacevano, no? Le cose che comunque ho sempre avuto un buon rapporto. Io ricordo che ho avuto un mio primo plasma, lo pagai 7.000 euro quando uscirono, insomma, quindi alla fine, per capire, no, era un periodo in cui mi potevo permettere determinate situazioni, e poi ovviamente i plasma, poi gli OLED, tutti, insomma, la grande qualità oggi dei televisori rispetto allora, che tu invece è più che il futuro, più che nella qualità, che come dicevamo magari certe cose non le percepivamo neanche, e secondo me ce l'avevamo nell'oggetto, cioè l'oggetto in quanto tale. Quindi io penso, è una delle cose che mi ricorda tantissimo gli anni 80, è il design di alcune marche importanti come la Bang Olufsen, non so se va a ricordare, che praticamente c'aveva questi pochissimi negozi che erano degli showroom incredibili, dove andavi là dentro e stavi in un film di fantascienza, dove c'era il mo, per quando erano già usciti i lettori CD, io mi ricordo c'era un CD che c'era sto cofanetto, sto cubetto, tu andavi là, facevi con la mano, passavi la mano così vicino e lui con sensore e apriva sto sportelletto, cioè fantascienza. E la stessa cosa i televisori, erano, cioè, erano degli oggetti di design bellissimi che costavano un sacco e che poi alla fine a livello di qualità sicuramente magari saranno stati anche migliori rispetto al televisionaccio che tu c'avevi, però non era quella la cosa importante, no? Cioè era l'oggetto di design. E una cosa che forse è più legata agli anni 90 che agli anni 80, i primi televisori a retroilluminazione, non so se ve li ricordate che erano enormi, sì, certo, che però ti davano la sensazione del cinema, retroproiezione, bravo, esatto, che però ti dava la sensazione del cinema, che sembrava che se tu stavi in una stanza buia con quel coso a una certa distanza ti sembrava che c'era un proiettore, qualcosa che proiettava, ed era così. No, non è che sembrava, era sì, così, era così, solo era che all'inverso, no, di quello che era realmente un proiettore, sì, nel cinema, cioè nel senso invece, sì, proiettata dietro di te proiettava da dietro il televisore, cioè nel senso, certo. Però erano oggetti affascinanti. Beh, era quindi l'unico modo per avere dei grandi schermi all'epoca, perché i cinescopi televisivi arrivavano fino a un determinato, credo fino a 60 o 70, ah, no, pollici. Non ho idea, però so che a un certo punto era impossibile, era impossibile aumentare, quindi perché se tu avevi una roba di dietro così grossa era davvero, esatto, un'impresa. E quindi per ingrandire, per fare i 100 pollici, 120 pollici, cioè televisori molto grandi, dovevi per forza utilizzare un'altra tecnologia, e si utilizzò la retroproiezione, che era praticamente un videoproiettore che, come hai detto tu, proiettava su un telo al contrario, e però per diminuire la distanza tra il punto di uscita della proiezione video e il punto in cui questa proiezione veniva visualizzata, si utilizzavano dei prismi di vetro che praticamente facevano una rifrazione della luce in modo che venisse praticamente per dirti, nei televisori a retroproiezione il videoproiettore è messo in verticale che proietta verso l'alto, e poi c'è un prisma che praticamente devia la luce e la fa andare contro lo schermo sul retro. Esatto. E quindi in una dimensione molto ridotta, sempre grossa, perché si parlava, erano spessi credo un metro se non mi ricordo male quei televisori lì, quindi erano comunque abbastanza ciccioni, sì, esatto. Esatto, però rispetto alla grandezza che avevano non erano, cioè non, sì, sì, non era come un proiettore, l'equivalente cinescopio magari doveva essere lungo 4 metri, esatto, per dire. Sì, che poi tra l'altro, cioè nel senso, come diciamo, quelli a retroproiezione che erano, c'erano sta base, erano proprio grossi, cioè nel senso erano, sì, sì, sì, grandi, quindi ci dovevi anche un posto. L'unica cosa che non mi sono mai posto è chissà quanto cazzo costavano qui, perché allora ovviamente come i plasma che sono usciti dopo, sì, sì, quei 10 milioni di lire, quelle cifre lì, esatto. Ma sì, che sarà mai, così, che sarà mai, sì, due cazzate, esatto, insomma. Comunque, allora, come dicevi tu, il design, se devo dire la verità, era più applicabile ai televisori di quell'epoca, perché i televisori di oggi ormai il design sta diventando che non c'è più neanche la cornice, sì, esatto, vabbè, quello è il design, come nei smartphone è la stessa cosa, sì, ormai sì, non c'è più design, è togliere il più possibile, non avere niente, quindi non c'è più il designer, non può ed ecco come, perché, e qui non voglio fare un po' il conservatore di turno, che sapete che non sono, però sebbene non rinuncerei mai alla funzionalità di uno smartphone di oggi rispetto a il cellulare d'allora, è ovvio che il cellulare d'allora a livello di design era tutta un'altra storia, cioè nel senso inevitabilmente ci, no? Ci si poteva esprimere di... Beh, cioè, c'era più materiale su dove esprimersi, oggi non c'è più materiale, anche se c'è poi un ritorno, se vai a vedere c'è un po' un tentativo, perché per esempio già i telefoni che si quello della Samsung che si impacchetta, no? Che diventa, si piega in due, sì, si piega in due. Insomma, dai, un po' te li porta. Beh, in realtà il discorso design c'è sempre stato, perché è una delle nostre, diciamo, la bellezza viene ricercata dall'uomo, e quindi il design, cioè ricercare anche la bellezza delle forme, delle linee in qualcosa che si utilizza, c'è sempre stata in qualsiasi oggetto inventato dall'uomo e in qualsiasi epoca, perché lo studio del design c'era negli anni 50, no, certo, negli anni 60, certo, negli anni 70, 80, e c'è ancora anche oggi. È ovvio che le applicazioni sono diverse, come anche l'applicabilità, come diceva giustamente Davide, sì, anche, a un certo punto anche il senso dell'estetica è diverso, no? Cioè, nel senso, comunque, sì, anni... a parte del senso dell'estetica, c'è anche un discorso di applicazione e applicabilità. Certo, quando certo. Un oggetto, una volta il televisore era un oggetto costoso, ne compravi uno che ti doveva durare anni, ogni famiglia ne aveva uno, e non è che avevi 60 televisori e costa 100 euro e ne puoi cambiare quanti ne vuoi, e se si rompe va bene. E quindi c'era anche, era anche logico magari investire di più su un oggetto costoso e avere anche una cura di un certo tipo di design. Adesso l'oggetto è uno schermo che alla fine poi diventa minimalista, come stiamo vedendo adesso, cioè sparisce tutto, rimane solo lo schermo, certo. Ma è anche un oggetto di uso comune, è diventato molto più, detto questo, comunque c'è sempre una ricerca del design. Anche se devo dire che prima hai parlato di Bang & Olufsen, sì. E io ho avuto la fortuna di rivederne uno recentemente. Dai. Perché ho un nostro ascoltatore, tra parentesi salutiamo, che è Marco Citro, Retro Bigini, che magari tu lo conosci. Come Davide, no, certo. Sì, come no. Cioè, lui ci ascolta sempre, no, il podcast, quindi salutiamolo, perché magari non ci ascolta in diretta, ma poi ci ascolta in differita. E lui è un collezionista di tubi catodici, che è un po' quelli che usa anche per fare la sua arte, diciamo, no? Perché poi lui fa i quadri fotografando le immagini dei tubi catodici, e ha tre Bang & Olufsen a casa. E sono stato recentemente da lui e devo dire, ragazzi, che quando l'ha acceso questo tubo catodico da Bang, non tanto, cioè già solo l'accensione, col fatto, quello che hai raccontato tu, Simone, che in pratica è anche meccanico, cioè quando si accende lui si sposta, no? Si accende, gira, sì, ruota, sì, sì, sì, in sì. Automatico segue e apre le casse. Sì, esatto, bravo. Ma poi, e adesso introduco con questa scusa anche il punto successivo, l'audio. Cioè un sonoro quello che me lo ricordo pure io, giuro, sì. Erano secoli che non sentivo un audio così bello. Che poi c'erano le casse tubolari, se non mi ricordo male, eh? Aveva delle casse con un audio, è uscito, sì, un sì. Sonoro, un audio, sì. Una musica. Abbiamo fatti, costavano un sacco di stipendi qua roba, cioè. Sì, ma introduco il punto successivo, noi non siamo più abituati, e questa è una cosa che per assurdo invece, al contrario di tutte le altre cose che abbiamo detto, che io me le immaginavo più o meno che sarebbero successe, questa invece non me la sarei mai aspettato, cioè che noi invece nell'audio, cioè nell'ascolto hi-fi, nella qualità dell'audio, siamo tornati indietro, cioè esatto. È andata di moda la bassa fedeltà e non l'alta fedeltà. Quindi noi l'audio di alta qualità è un qualcosa che è proprio degli anni 80, se vuoi, degli anni 70, degli anni 80, e poi dagli anni 90 in poi è iniziato a decadere, cioè è come se non gliene fregasse più niente a nessuno di sentire bene. Noi adesso siamo abituati a cassettine, che pur belle, perché la qualità comunque di un Alexa, anche le cassettine JBL, ma anche le Bose, sì, vabbè, va, però, tutto il taglio però, delle frequenze, su ragazzi, cioè, comunque il quelle casse lì, cioè, ma già l'MP3 ha portato un po', no, verso questa, sì, direzione, sì, perché sì, oggi sì, la portabilità e l'ascoltabilità ha superato a quello che era l'ascolto della musica da una volta, che era la tua stanza con il tuo impianto hi-fi. E tra l'altro era poi il punto successivo, volevo solo concludere il discorso sul design, che sono d'accordo con Carlo, che tra l'altro l'essenzialità di oggi è anche ovviamente frutto della necessità dell'usabilità dell'oggetto. Negli anni 70 le cose erano tutte bombate, no, perché comunque alla fine erano veramente oggetti dei design in senso statico, no, cioè nel senso, comunque sì. Era poi, come dicevamo tante volte, quando vediamo il PET, per esempio, sì, noi vediamo il PET, per noi il PET era l'oggetto di fantascienza che vedevi su Star Wars, no? Il computer PET della Commodore, che è quello esatto, che per me è una cosa che avrei sempre sognato ad avere, no? Cioè, nel senso, ma ancora oggi, cioè, devo dire la verità, forse più oggi che allora, no? Perché comunque c'era quel suo aspetto che era il film di fantascienza che vedevi negli anni 70, cioè nel senso, alla fine è quello. Tra l'altro, giustamente in chat, sia Valleggi che il nostro amico Siculus stanno praticamente postando cose. Penso che questo è tipo il comunicatore di Spazio 1999, che ricordo fra due settimane ne parleremo, sì, che Marco ha fatto, esatto, quelle immagini che ha postato Giovanni Fiorella è un fake, non è vera. Attenzione, Giovanni, è un fotomontaggio recente finto, e se non lo dice Carlo Santacostino, che è uno storico dell'informatica cerca la foto vera e non è quella, è completamente diversa. Però quantomeno spero non ci sia il volante con il volante per il tipo della macchina lì. Non c'è la telescrivente davanti, non c'è quel televisore appeso, però il volante c'è, magari, no? Il volante sì, ma perché non credo che c'entrasse con in realtà con quello che c'è scritto sotto. Non è computer, magari è una centrale idrica, che ne so. Era una valvola di sfogo, magari. Comunque, torniamo agli hi-fi, appunto. No? Hi-fi, sì, hi-fi, il punto che avevo scritto, dove negli anni 80 vi ricorderete che in tutti i posti, tipo la GBC, Marcucci, Melchioni, c'erano queste sale d'ascolto con gli impianti hi-fi, le casse, e qui c'era proprio l'esplosione dell'hi-fi, che io ho vissuto anche in prima persona a casa mia con mio padre, che era appassionatissimo, aveva dei pezzi molto importanti. Già. Ma tutti voi avete avuto l'impianto hi-fi, si cercava l'hi-fi. C'avevo un Pioneer, ricordo, adesso c'era il mobiletto, poi, no? Prima di tutto c'era il mobiletto, cioè nel senso, il tuo impianto hi-fi, che era composto da 4-5 elementi, perché con 4 elementi, diciamo così, quindi l'amplificatore, il mangianastri, il radio, perché non c'era la radio, e poi il giradischi proprio sopra, no? E poi ovviamente le casse. E anche quello per me era futuro, perché comunque l'impianto Pioneer che c'avevo io, con tutto argentato, con queste manopole, con come si chiama il coso che ti segna la musica, no? Il V-meter che sta rifacendo Davide, oltretutto, insomma, è tutta quella roba lì, cioè nel senso, anche quello, cioè, quando io ero ragazzino, no, per me quello era il futuro, cioè, allora, ragazzi, io vi giuro, ho avuto questa esperienza qualche settimana fa sul Banks Olufsen di Marco Citro. Ma se vi capita che avete per casa ancora, molti credo che abbiano nascosto da qualche parte un hi-fi degli anni 80 o delle casse, eccetera, provate a riaccenderlo e ascoltate un attimo la musica da lì, e vi rendete conto di dire: ma che fine hanno fatto? Cioè, come mai adesso l'ascolto così male la musica, mentre prima l'ascoltavo così bene? Cioè, veramente è una domanda che ci dobbiamo fare. Non so cosa sia successo. Però è vero pure, Carlo, che le nostre case oggi, al di là di chi magari c'è una casa, però in generale, per chi vive in città, le nostre case oggi non sono neanche più pensate per avere lo spazio. Perché comunque, c'era un mobiletto, c'erano le casse, c'era il posto dove tu andavi lì in pace a sentire la musica. Credo che sia proprio una questione culturale, ormai non c'è, in Italia almeno, perché in certi paesi del mondo invece non è così. In Italia, anche volendo avere un impianto ad alta fedeltà, è molto complicato, molto complesso, cioè la trovi solo a pochissimi rivenditori specializzati che trattano materiale che è tipicamente usato, oppure se è nuovo è materiale che arriva dal Giappone, perché il Giappone invece questa cultura ancora ce l'ha ed è ancora viva nei negozi come lo era per noi negli anni 80. Sì, però lì per esempio è ancora viva la fotografia e tante altre cose che sono morte, però sai, il Giappone è un po' una terra, esatto, a sé stante. Però diciamo che si possono importare, quindi esistono degli importatori in Italia che commercializzano ancora prodotti moderni di alta fedeltà. Esiste ancora l'alta fedeltà, è molto, molto più difficile trovarla, è costosa ovviamente, E quindi io qua volevo introdurre, cioè, Valleggi dice che gli pare di averne visto qualcuno a casa sua, l'impianto wifi. Tra l'altro, è il termine, cioè nel senso che è l'esploso di moda, hi-fi, alta fedeltà, no? Che c'è, nel senso, però oggi ce la propongono ancora, forse. Beh, io è un termine che è un termine molto in disuso, cioè io non lo vedo quasi più da nessuna parte, a meno che ci spacciano che quell'oggetto che ci stanno vendendo, sì, però il termine, però il, sì, però il termine, però il termine io non lo vedo quasi più da nessuna parte, se non ad esempio in alcuni negozi specializzati che ci sono ancora a Roma, dove ancora c'è la sala d'ascolto e c'è la sala proiezione per i proiettori, quindi cioè, quei posti veramente specializzati per iper appassionati che tecnicamente ancora sono in grado di poter diciamo permettersi e apprezzare comunque quel tipo perché per adesso ti vendono la sound bar di solito, per dire se vuoi un buono ti danno la sound bar, che vabbè la sound bar dovrebbe ridarti un feeling 5.1, ma sì, ma più che altro nella sound bar ti dà quell'impatto cinematografico, ossia il suono, la profondità, no? Che però non c'entra niente con la qualità, capito? Cioè, nel senso, è un altro discorso. Tu metti un impianto stereo vecchio, bello, con magari il subwoofer, le casse, i tweeter, i medi, gli alti, bassi, c'è una qualità che non lo so, non c'è più l'abitudine ad ascoltarla così. Io probabilmente ritornerà, probabilmente. Ma sì, comunque diciamo che per quanto ci riguarda, per stare nel focus nostro, tutto più o meno è cominciato a morire, mettiamola così, dal momento che sono nati i Walkman. I Walkman, che sono nati negli anni 80, hanno cominciato a farci ascoltare la musica in un modo diverso, e la nostra generazione, gran parte della generazione che ha vissuto i Walkman, oggi è quella che ascolta ancora la musica magari con le cuffiette e gli auricolari sul telefonino, e le generazioni successive non hanno proprio neanche vissuto l'alta fedeltà, proprio non sanno neanche cosa, non l'hanno mai neanche vista, e addirittura non me l'immagino neanche quello che possa essere, non se lo immaginano proprio. Sì. Come il giradischi, lasciamolo stare, che questa è un altro tipo di tecnologia. Vabbè, anche no, anche se che no, vabbè, già il giradischi oggi è, vabbè, adesso questo è il momento del vintage, quindi il vinile, i giradischi già se ne vedono tanti in circolazione adesso in questo momento, proprio perché c'è un po' questa sorta di richiamo, no? Anche diciamo sponsorizzato da molte band che ai giovani magari li ascoltano e dicono: uscita anche versione in vinile, se volete, giradischi, e quindi magari visto diverse persone insomma riavvicinarsi a questa cosa, ma non è che ne percepiscono o hanno l'impianto per poter anche sentire, perché lo ascoltano via USB attaccati a un trabicolo, bravo, esatto magari. E quello è il problema di fondo, poi fondamentalmente, tra l'altro, parlando di hi-fi, tanta alta fedeltà usciva pure dai condizionatori, cioè i condizionatori per esempio degli anni 80, quei pochi che se ne vedevano, perché io, cioè, a casa mia non penso di aver visto un condizionatore fino a metà degli anni 2000, per esempio, però insomma ce n'erano. Sì. E com'erano, Davide? Allora, se ve li ricordate, voi non so se vi ricordate a casa di qualcuno che se lo poteva permettere, o nei negozi. Nei negozi. Un bucone rotondo sul vetro con attaccato una specie di griglia, no? Di griglia, plastica bianca. Quando arrivava l'estate ci si infilava dentro sto affare che era un cubo che faceva il rumore di un trattore e che però ci dava il fresco, era bellissimo, e quando lo vedevamo, per noi, almeno per quanto mi riguarda, non è che fosse futuro, però era sicuramente una cosa che avrei voluto. Quello era un lusso, però anche la percezione del futuro era un lusso, però facevano un casino, cioè. Erano di quelle cose che ci si domandava, non me lo sono neanche domandato più di tanto, però ci si domandava quando mai l'avrebbero fatto diventare invisibile e ci sarebbe. Io mi sono sempre domandato quando l'avrebbero messo nei vestiti, e me lo sto ancora domandando. Eppure sai che proprio questi giorni ho visto un video dal Giappone, perché sai che il Giappone d'estate fa un caldo bestia, e praticamente in Giappone vendono questi giubbotti cioè sono tipo dei dei piumini però a gilet, cioè nel senso smanicati, ecco, per capirci, dove ai due lati, quindi sui fianchi, hanno questi ventilatori ad alta frequenza, cioè nel senso che comunque sparano aria dentro, e praticamente tu vai in giro tranquillo con sto giaccone che sto piumino, insomma, smanicato, che non ti metteresti mai d'estate in Giappone, però te lo metti perché quello ti tiene fresca la schiena praticamente. Vabbè, poi dopo torni a casa e la butti da schiena, perché chiaramente, cioè... Vabbè, come il giubbino che asciugava il povero in Ritorno al Futuro, esatto. 2, giusto? Sì, era il 2, sì. Tra l'altro che gli asciugava, lui finiva nella fontana lì che c'era la piazza, e quando usciva il giubbino lo asciugava automaticamente, cioè, come, esatto, tra l'altro. Io mi ricordo che c'era pure il cappello con il ventilatore sopra, vuoi ricordare? Comunque faceva ridere, perché una volta, cioè, sempre questo mio cugino con questo cappello sembrava stupido, cioè nel senso, comunque, vabbè, forse era che i capelli porta bibite con le cannucce, sì, negli sì, anni sì. 80. E vai, Davide. Niente, invece, vabbè, su questo che stiamo raccontando, anche qua non è che ci fosse una gran visione, diciamo, l'ho solo messo così per ricordare un momento che c'è stato di crescita, perché io l'ho vissuto anche appunto lavorando in un negozio dove vendevo delle robe che poi la gente comprava da mettere in auto, e le autoradio che anche in macchina volevano tentare di portare l'alta fedeltà, no? E quindi facevano autoradio sempre. No, lì, c'è stato una serie di passaggi. Prima c'era la miniaturizzazione. Come si dice? miniaturizzazione, no? Che quindi c'erano, vi ricordate gli Autovox, quelli piccoletti che sembravano delle cassettine colorate, gialli, verdi, rossi, no? E che tu c'avevi la collezione solo adesso. Esatto, che tu c'avevi la plancia, inserivi questo coso e ti partiva, che era la radio, poi, fondamentalmente, perché penso che ci potevi sentire soltanto la radio. E di solito comunque nelle macchine normali, le casse nelle macchine facevano schifissimo, oppure se non si sentivano già direttamente dal dispositivo che attaccavi lì, no? Ma di solito c'avevo degli amici molto fantasiosi che attaccavano il registratore di casa sulla macchina, insomma, quindi poi alla fine c'era tutto. E poi piano piano è cominciata a nascere la cultura dello stereo in macchina, quindi le casse un po' più di qualità, poi chi si metteva il subwooferone per fare casino, quello è negli anni 80, era il master del subwoofer in macchina, esatto. Che praticamente quando lo accendevi partiva prima la macchina col subwoofer partiva prima il subwoofer e poi alla macchina, esatto. Lì arrivava il discorso del chi ce l'aveva più grosso, no? Sì. C'è sempre stato, sì. Praticamente sostituivi la plancia dietro sopra il bagagliaio, sì. E praticamente il bagagliaio non ci stava più niente, perché ci mettevi questi di buffer grossi come migliotterizzazione che poi erano dei magneti che praticamente lì se ci mettevi i dischetti del computer basta, non esisteva più niente. Poi, esatto, buffer, Twitter, midrange, crossover. Sono stato trollato da Marco, comunque, perché alla fine, cioè, nel senso, mignotterizzazione è bellissimo. Quindi diciamo che qua abbiamo visto un'evoluzione che ci ha portato alla finta alta fedeltà, perché l'alta fedeltà in macchina è praticamente un'utopia. E beh sì, è anche un controsenso, no? Cioè, nel senso, se ci pensi, no? Nel senso, comunque già non è un ambiente dove, cioè, nel senso, oggi ci sono magari delle macchine particolarmente insonorizzate, ma parlare di insonorizzazione degli anni 80 è un neofumismo. Già non c'era l'aria condizionata, i finestrini aperti, i casini, le macchine, il rumore, quindi già il concetto di alta fedeltà in macchina, sì, era... E poi l'ambiente piccolo, insomma, era difficile, però ci si provava, e anche lì io non so cosa mi sarei aspettato per il futuro. Non mi sarei aspettato quello che adesso è l'infotainment che c'è nelle automobili oggi, dove sì, la musica ha il suo ruolo, però ormai quello che chiamiamo autoradio in macchina ormai è diventato un computer che ci dà tantissime informazioni, tra cui anche perché diventa tutto smart, no? Cioè, nel senso, da quel punto di vista, ormai quel tipo di concezione che c'hai in mano, figurate se non lo puoi mettere dentro una macchina. Tra l'altro, questa cosa mi riporta agli anni 90, quando mio padre comprò la Lanciatema, no? Quella col motore Ferrari, quella in tiratura limitata, c'era questa Lanciatema, insomma, da paura. Una cosa è, la prima volta che sono salito in macchina, lui quando ha acceso la macchina, quella c'aveva una sorta di, tra virgolette, computer de bordo, quindi si cominciavano a accendere tutte queste luci, tutti così, e fino a che poi lui partiva e spingeva ogni tanto sti pulsanti per fare questo, per fare quell'altro, l'aria condizionata, anzi non l'aria condizionata, il climatizzatore, che era una roba di essa. Quindi ecco, per me quello era il futuro, cioè nel senso, il futuro era supercar, no? Cioè nel senso, comunque la macchina dove spingevi i pulsanti a caso perché te faceva figo, cioè nel senso. Vabbè, ma ci siamo arrivati adesso, anche le macchinine, quelle piccole, comunque hanno il computer di bordo con tutte le funzionalità, il climatizzatore. Sì, però non spingi i pulsanti a caso, capito? Cioè non c'ha lo stesso feeling, capito? Cioè, nel senso. Vabbè, perché non sei piccolo, mio figlio entra, spinge pulsanti a caso. A caso, vabbè, certo, ok. 12 anni. Niente, vabbè, comunque sull'auto, vabbè, solo questa parentesi per ricordarci le brutture che abbiamo vissuto con chi ce l'aveva più grosso, ma ci sono ancora gli appassionati. Io vedo dei video di gente che mette dentro 600 altoparlanti, che quando alzano il volume ti volano i capelli fuori dai finestrini, che fanno queste gare di potenza dentro le automobili. Cioè Giovanni, giustamente, in macchina più che hi-fi era hi-figa, insomma, quindi giustamente. Marco che dice non parlatemi di kit quando hai detto supercar, perché vabbè certo, nel senso, vabbè, chi più di lui potrebbe spiegare, insomma, esatto. Che però per lui è stata, poi alla fine tirando le somme, è stata quasi una brutta esperienza, no? Quindi c'è quasi un brutto ricordo della cosa. Sì, però cioè, al di là del percorso, quello che può essere successo, quindi magari della negatività, cioè comunque il pensare di fare una cosa del genere e arrivare a una replica di quel livello, cioè nel senso, insomma, il sogno bagnato, certo, di ogni bambino degli anni 80, per noi che l'abbiamo vissuta come spettatore, la cosa fantascientifica, che rimaniamo sempre con la mascella per terra, esattamente così. Lui invece ci ha perso la vita dentro, quindi è un attimo dei brutti ricordi. Quindi non mi parlate di supercar, va bene, ok. Tra l'altro l'hai conosciuto David Hasselhoff? È mai venuto a vedere la macchina? Lui sì, probabilmente, io no. Tu non sei David Hasselhoff, come si chiama. Lui ha conosciuto sicuramente la moglie, che io sappia, so che ha avuto, tra l'altro l'ho visto recentemente, anche lui è un po' Zed Robot, cioè nel senso è tutto di plastica praticamente, è un po' invecchiato male, ma poi cioè, ragazzi, un po' di dignità, dico, un po' mica tanto, ma sono americani, sono americani. Quindi passiamo invece all'argomento sulla quale qualcosa potremmo invece raccontare, su quello che ci aspettavamo del futuro. Io sicuramente, quando lavoravo nel negozio, quindi parliamo proprio di anni 80, vedevo questi, parliamo di telefonia mobile, quindi parliamo di quello che chiamiamo la telefonia mobile per il momento, perché sai, chiamarli telefonini non suona proprio bene negli anni 80 anche perché erano proprio delle valigie. I primissimi in assoluto erano veramente delle valigie, dei mattoni, delle robe grosse, insomma, no? Però era questa anche qua, questa ricerca di avere. Scusa Davide, sei su un monitor in una macchina, non so se. In che senso? Giovanni ha postato che ti guarda in macchina sul monitor sta attento a non fare incidenti. Infatti, no? Dove siamo arrivati oggi, la follia proprio di vedermi su una macchina. No, certo, scherzo. No, volevo dire, quindi telefonia mobile, no, che all'epoca noi non, diciamo, l'abbiamo, io l'ho vissuta partendo da una valigia, no? Grossa come una casa, sì. La vedevamo nei film, la vedevamo come se fosse normalità nei film, col telefono a disco dietro, che telefonavano come noi telefonavamo a casa, telefonavano in macchina. Esatto, no? E quindi quando lo vedevo in macchina dicevo, cacchio, quelli in macchina telefonano. Ecco, quando arrivarono i primi telefoni mobili, che erano questi cassoni giganti, diciamo, all'epoca ci ho ripensato un po' quando ho scritto il documento, cosa pensavo in quell'epoca. Io non pensavo che saremmo arrivati a dove siamo arrivati oggi, no? Sicuramente si pensava di rimpicciolirli, di farli sempre più piccoli, però non pensavo che saremmo mai arrivati a dove siamo arrivati oggi. abbiamo visto lo sviluppo, abbiamo visto il rimpicciolimento piano piano, però quanti di voi si sarebbero mai immaginati che sarebbero arrivati a quello che a dove siamo arrivati oggi? Immaginandoci, beh, diciamo che la percezione era complicata, perché in realtà noi immaginavamo l'oggetto telefono, quello che noi oggi abbiamo in mano ha veramente poco a che fare col telefono in sé. Esatto. Cioè il telefono è una funzione all'interno di un quasi contesto, quasi neanche più usata, tra l'altro quasi neanche più usata all'interno di un contesto, di un universo che è completamente diverso. Invece negli anni 70 tu avevi in mente il telefono, pensavi, se tu ci avevi uno sforzo di fantasia, pensavi al comunicatore di Star Trek. Esatto. e pensavi che un giorno quella cosa sarebbe stata quello, cioè, ma non pensavi al computer portatile che ti porti dentro la saccoccia, capito? Cioè, è proprio concettualmente diverso il modo in cui queste cose hanno confluito, diciamo, universi diversi, contaminazioni diverse, no? Quindi ecco, da quel punto di vista non ci saremmo probabilmente mai arrivati, se non qualche lungimirante pazzo scatenato. Però ecco, quello che io mi immaginavo quando vedevo sti telefoni, no, le cose, oppure quelli che parlavano all'orologio nei film di fantascienza, quello che mi immaginavo era il comunicatore Star Trek, un oggetto che ci avevi in mano e col quale parlavi con gli altri, che poi era una via di mezzo tra un telefono, un walkie talkie, no? Cioè, insomma, un po' quello. E quando è uscito lo StarTAC, che per me è stato, secondo me, il modello di smartphone, di telefono cellulare, che anno era? Dell'epoca, era la fine degli anni 90. Ah, eravamo già negli anni 90 avanzati. Sì, sì, sì, sì. Sì, eravamo, sì, intorno, beh, fine metà anni 90, dai, metà anni 90. Beh, voi considerate che io ero un periodo PlayStation 1, dai, poco prima della metà degli anni 90, quindi considera 93 94. Sì, 94. Mi ricordo che il mio primo telefono cellulare Etax era un Bosch, tra l'altro esadecimale, cioè nel senso non c'aveva neanche i cioè nel senso non poteva neanche scrivere, no? Quindi cioè nel senso tu memorizzavi i numeri in cella di memoria 1, in cella di memoria 2, in cella di memoria 3, ma non è che mettevi, sì, aveva il display a LED, esatto, non è che tu dicevi mamma o mozio o nonna, capito? Cioè nel senso non scrivevi niente, tu devi ricordare che sull'1 hai memorizzato il numero di casa, cioè nel senso, quindi erano un po' così. E lo pagai, tra l'altro, tipo 800.000 lire, 1.000.000, non mi ricordo. E costava telefonare, costava tipo 1.000 lire. Sì, e tra l'altro, prima di vendermi il telefono, ho dovuto portare bollette di casa, l'autorizzazione di mia madre, via dicendo. Insomma, perché anche se ero già maggiorenne, comunque loro volevano quel tipo di garanzie lì. Come prima di quelli sono esistiti quelli radio, e non, quindi non cellulari, che erano quelle valigie che funzionavano, a 72 MHz, roba del genere, che funzionavano, che hanno fatto venire il cancro al cervello a tanta gente, poi diciamo, cancro al cervello a tante persone, questo non lo so, però sì, sicuramente per avere la portata che dovevano avere bisognava avere qualche watt, e comunque erano, funzionavano solo a Milano, a Roma, a Napoli, tre paesi, cioè nel centro proprio, ma se appena uscivi un attimo non funzionava più. Sì, non c'erano dei ponti radio diffusi, insomma. Esatto, quindi funzionavano in determinate zone e costavano un patrimonio, e paradossalmente si interfacciavano via radio ad un telefono che tu avevi a casa normale, quindi telefonare via radio non costava così tanto di più, costava il servizio che ti vendevano per l'utilizzo, ma in realtà poi la chiamata costava uguale a prima, perché chiamavi da casa con un numero, cioè ti attivi, sì, la tua linea. Avecela una portanza radio che arrivava fino a casa e permetteva di telefonare, perché insomma, cioè non è che era da cosa, però così normale. C'erano i ponti radio, però poi alla fine convogliavo su una linea normale, una linea telefonica urbana, quindi la chiamata era una telefonata. Pensa urbana, che cosa cervellotica, insomma, assolutamente. No, vabbè, comunque StarTAC, lo sai perché l'abbiamo già detto forse in un altro episodio, ma tu sai perché lo StarTAC si chiamava StarTAC? No? Immagino per riferimento a Star Trek, immagini giusto. In realtà la Motorola voleva chiamarlo Star Trek, e la forma che si era inventata dello StarTAC, che si apriva così a conchiglia, era proprio ispirato al comunicatore di Star Trek. Loro volevano chiamarlo Star Trek, ma quando chiesero i diritti del nome alla Paramount gli sparò una cifra così alta, gli ha detto via grande. La Motorola disse: sai che c'è? Lo chiamiamo Startac. E quindi però che figata Star-tac, se l'avessero perché... chiamato Star-tac. Io l'avrei chiamato Star Trek. Era il nome previsto. Beh, ma tra l'altro, se voi vi ricordate lo Startac, quando voi finivate la conversazione, per chiuderlo, facevi lo stesso movimento che faceva Kirk. Perché è esattamente ispirato a quello. Era la realizzazione pratica del comunicatore di Star Trek. E l'idea era di chiamarlo Star Trek, ma ovviamente i costi chiesti dalla Paramount per chiamarlo Star Trek evidentemente non erano affrontabili dalla Motorola, o comunque decisero che non gli conveniva e quindi lo chiamarono StarTac non Star Trek. Ma la cosa giusta che hai detto tu prima, Simone, quando ha fatto la domanda a Davide, cioè che il concetto attuale non è che non ci si immaginava dove saremmo arrivati con i cellulari nel senso telefonico, perché già l'esempio dello StarTac e del comunicatore di Star Trek, già Star Trek se lo immaginava, eravamo nel 96, no, ma noi tutti Star Trek era negli anni 60 e già si immaginava Star Trek, nel senso che già immaginavamo che prima o poi saremmo arrivati ad avere quel tipo, ma non immaginavamo l'evoluzione convergente che ha portato invece agli attuali cellulari che abbiamo adesso, cioè gli smartphone di adesso, che sono dei computer che hanno in tasca, come dice giustamente Simone, fanno di tutto tranne che telefonare, fanno anche il telefono, che è una funzione, funzione, che è una convergenza di cose, anzi quando te lo vendono ti dicono pensa puoi anche telefonare. Ci sono i servizi che sono nati su internet, quindi la ricerca, c'è il riconoscimento vocale, c'è tutta una serie di cose che hanno poi fatto in modo da convergere lì dentro, tanto che infatti anche nel pur visionario Star Trek degli anni 60, cioè il primo Star Trek, la TOS, da The Original Series, neanche il buon Roddenberry, che pure si è immaginato tante cose del futuro, tra cui il comunicatore, si era immaginato che in realtà in futuro quello che lui immaginava facesse il tricorder, e ve lo ricordate il tricorder? Comunicatore, in realtà adesso sono la stessa cosa, il nostro smartphone è sia il tricorder che il comunicatore. Poi alla fine il comunicatore e il tricorder sono gli oggetti portanti di Star Trek fino a oggi, nel senso ancora oggi Star Trek rimane legato, diciamo, a quell'immaginario, pur come dici tu in realtà avrebbero potuto già fonderle le cose, no? Nel senso, esattamente, nel nostro futuro il tricorder e il comunicatore sono la stessa cosa, ovviamente. Ci sono comunque immagini, penso degli anni 60, che girano, di qualcuno visionario che comunque ci ha centrato più o meno la cosa, con uno schermo, la trasmissione delle immagini, l'utilizzo di contenuti, computer un po' rappresentato. Sì, ma io infatti non penso che non ci sia stato, però nell'immaginario generale comunque il telefono era un telefono, capito? Esatto. E il computer era un computer, capito? Cioè, quindi avevamo ancora questa distinzione di alcune cose che ancora dovevamo assimilare anche all'interno delle nostre esistenze, come per esempio invece abbiamo assimilato le nostre esistenze dentro gli uffici, le fotocopiatrici nelle quali mio cugino ci si fotocopiava le chiappe, per esempio, oppure i fax, dove, che insomma anche lì se ci fosse stato lo spazio mio cugino avrebbe faxato una chiappa, insomma, cioè nel senso, perché a lui piaceva fare queste cose così, lo dico che l'hanno fatto tutti, ma insomma anche ci sono numerosi film dove si vede. E allora niente, non è stato originale mio cugino, fotocopiava le chiappe, era bellissimo. Sicuramente quando abbiamo potuto mettere mano a una fotocopiatrice per davvero, forse la prima cosa che io ho fotocopiato sono i soldi. Da infilare dentro ai distributori. Io devo dire, ho la memoria di la prima cosa che ho fotocopiato è la mia faccia spiaccicata così. Io invece la mano, sono più normale. Mi sono messo dentro la mano. No, io ho la faccia, perché ho messo la faccia tutta la guancia schiacciata, quindi veniva fuori una cosa brobriosa. Però ecco, insomma, diciamo che la fotocopiatrice è un oggetto che oggi in alcune parti ancora c'è, perché non è che non c'è, però diciamo che oggi c'è ancora. Sì, adesso sono le multifunzioni. Esatto, bravo, è più integrato. Anche lì vedi c'è il concetto di integrazione, decontaminazione tra oggetti che erano diversi. Oggi tu c'hai una multifunzione che è uno scanner, cioè il concetto di fotocopiatrice in sé, cioè in senso assoluto, quindi come oggetto singolo non esiste più, no? Cioè nel senso, ma è chiaro, così come non esiste più il fax, come, come scrive poi Davide, cioè noi con i fax ci mandavamo le fotografie, cioè nel senso di tutto, i telefax i telefax tra polizie internazionali si mandavano le foto dei ricercati, che poi che cazzo ci capisci, che erano due colori. No, diciamo che più che altro qua, quando l'abbiamo, e se uno era di colore era ancora peggio, praticamente veniva solo una faccia nera, una macchia nera, esatto. Un casino. No, diciamo che quando comunque l'abbiamo vissuto, il momento in cui sono apparsi i telex, siamo rimasti i fax o i telefax, siamo rimasti, io sono rimasto molto sì, era quello, era veramente un oggetto del futuro, c'era qualcosa che veramente ti faceva credere di aver avuto un'evoluzione di qualche tipo tecnologica, cioè poter trasmettere le immagini a distanza, insomma. Era quando l'abbiamo avuto in negozio lì in CKE dove lavoravo, io guardavo, lo ammiravo questo dispositivo, e anche qua nel futuro mi immaginavo che sarebbe diventato sempre più bello a colori, eccetera eccetera, quando invece abbiamo preso un'altra strada e hanno inventato WhatsApp e tutte queste boiate qua, no, avendo inventato internet e l'email essenzialmente, poi vabbè, i social eccetera sono una conseguenza. Sai che i fax a colori esistevano poi dopo? Sono esistiti, ma erano inutili perché già internet si stava diffondendo e già costava un fottio mandare un fax, cioè nel senso mandare le cose in allegato, quindi che poi all'inizio era le mail, adesso sono i social, ma è sempre internet che ha creato la rete globale, globale che comunque ha creato tantissimi delle cose a cui noi adesso siamo abituati e che non sarebbero stati possibili senza l'avvento di una rete globale informatica, ecco. E questa è forse una delle cose più difficili da immaginare che invece si è avverata, e che qualcuno sicuramente nel passato se l'ha immaginata, ma non così, non in questa maniera così precisa, e sicuramente non era una cosa immaginabile nell'immaginario collettivo che abbiamo citato prima, cioè il fatto di avere questa rete globale dove tutti in qualsiasi momento siamo sempre connessi, come noi adesso in questo momento che stiamo facendo la trasmissione, e che potenzialmente ci possono ascoltare in questo momento fax, ci ascoltano tramite il fax dalla luna e da qualsiasi cosa. Sì, sì, è vero. E su Telegram ci stiamo cambiando immagini a colori in alta risoluzione. Sì, sì. Vabbè, è tutto un altro universo all'interno di un contesto che allora era anche ipotizzabile, ma completamente al di fuori della nostra portata. Esatto. E come dice giustamente Marco Valleggi, lui dice il fax si usa ancora, recentemente l'ha dovuto utilizzare per dei documenti. Stavo proprio dicendo, è vero, perché poi io comunque in definitiva non lo uso mai, cioè, anzi, perché oramai c'è la schedina che riceve direttamente i fax, diciamo, nel computer, no? Però effettivamente ancora qualcuno, diciamo, lo richiede. Sì, ma è più per burocrazia che per altro. Esatto, per burocrazia oggi c'è la PEC, ragazzi, cioè nel senso, se non c'hai la PEC sei un deficiente, devi chiudere l'ufficio, cioè, nel senso, però diciamo che in casi di emergenza viene ancora utilizzato il fax per risolvere certi problemi. Allora noi, come protocollo agenziale a livello assicurativo, se ci sono dei problemi di trasmissione, in effetti il fax è ancora utilizzato come ultima risorsa quando si devono mandare i giornali cassa, ad esempio, quindi comunque tutte le note contabili. Se non funziona il sistema informatico, in qualche maniera deve essere mandato. Sì, diciamo. Però oggi, oggi ragazzi, c'è WhatsApp, la fotografia, lo so, però l'applicazione scanner sullo smartphone, cioè nel senso, una conferma d'ordine per un ordine, se non riesce a mandarlo via mail, non riesce a mandarlo, va bene anche via fax, e vale come documento. Vabbè, ragazzi, c'è una da raccontare divertente sul fax, che non mi ricordo se l'ho già raccontata in qualche altro podcast, però era quando facevo il servizio civile, e stiamo parlando del 1993. Nel 93, divertentissima questa cosa, perché c'era un ragazzo che faceva servizio civile insieme a me, però non era uno molto tecnologico all'epoca, comunque nel 93 sì, io ero già molto informatico, insomma, con tutta la tecnologia, però eravamo nerd e vi ricordate che non era così diffuso essere abbastanza tecnologici, no? E anche il fax era visto come un oggetto di alta tecnologia, come hai giustamente citato anche tu prima, Davide, anche se nel 93 era già abbastanza sdoganato. E siccome lavoravo in una cooperativa sociale come servizio civile, ci chiesero di mandare dei fax, cioè chiesero a questo ragazzo, mandi questi fax qui, questi documenti me li mandi via fax a questo numero. E allora lui sì, prese i documenti, boom, e va di là in ufficio. Dopo un po', cioè, non torna, cioè, non è che ci volesse 6 ore, per va di là a vedere, era lì che li fotocopiavano, li stava fotocopiando. E allora il capo mio dell'epoca lì dell'ufficio gli fa: ma perché si legge a raccontare, ma ricordo, sì, ma perché? E devo mandarli via fax. Eh sì, riprendi e mandi via fax, no, perché non ho detto di copiare. Si smaterializza. Li mando via fax, poi mi hai detto di riportarteli, come faccio? Cioè lui era convinto che mettendo il documento, certo, nel fax, certo, questo si disintegrava, veniva trasmesso il foglio nel cavo telefonico e si rimaterializzava. Esatto, parte. Ma perché così? Non era così. Il documento originale. Fantastica. Allora, io devo dire la verità che quando devo mandare i fax, alcuni tipi di documenti li fotocopiavo perché... cioè per renderli più, diciamo, come leggibili, vabbè, sì, okay, leggibili, oppure perché era più scorrevole nel fax, perché magari era una cosa che tutto spiegazzato, cose, cioè, vabbè, comunque il fax c'aveva i suoi limiti da questo punto di vista. Poi la cosa incredibile del fax, ragazzi, era la lentezza, cioè a parte cioè, la lentezza, cioè la cosa, la velocità selezionabile, alcuni credo che andava a 9600 per andare più veloce, però introduceva gli errori, se non sbaglio c'era la levetta per fare a fine, cioè a, diciamo, alta definizione o bassa definizione, che trasmetteva più o meno righe del documento. No, più lento ancora, se avevi l'alta, esatto, definizione, perché dovevi leggersi. Comunque, tornando alla fotocopiatrice e a questi eventi particolari, quanti di voi hanno vissuto la copia di un dischetto floppy con la fotocopiatrice? Nessuno di voi l'ha vissuto? No, tipo mi copi questo disco e fanno la fotocopia con la fotocopiatrice. No, questa non mi mancava. No, a me mi è capitato. L'assicurazione, in un'assicurazione, tra l'altro, è capitato, mi raccontava il tizio, gli ho detto alla mia segretaria di copiarmi quei dischi e mi ha portato, erano floppy di quelli da 5 quarto, flessibili. Esatto, gli ha portato le fotocopie ed è rimasto lì interdetto, gli ha detto no, gli ha copiato cosa di carta in mano con la fotocopia, non ci credo. Bello. Comunque, niente, dai, tornando ai nostri punti, che abbiamo gli ultimi due punti che li raccogliamo assieme e li mettiamo con quanto hai detto tu, Carlo, su quanto non ci aspettava questa globalizzazione della comunicazione, no? Che è le trasmissioni televisive e i videoregistratori, che sono due cose che noi abbiamo vissuto, mm-hmm, in quei tempi in maniera molto, molto ampia. Abbiamo visto la crescita delle trasmissioni, del tipo di contenuti, e i videoregistratori che ci consentivano di poter vedere le trasmissioni in ritardo, in demand. Potevi comprarti un film e vederlo, potevi scambiarlo con gli amici, potevi fare tante cose. E in quegli anni ci saremmo mai aspettati di arrivare a consumare, tra virgolette, i contenuti di questo genere come oggi li stiamo consumando, con fibre ottiche nelle case, con contenuti, non esiste più la televisione come la vedevamo, cioè le trasmissioni televisive. Ma il concetto stesso, cioè, ancora esiste, perché purtroppo c'è una generazione che è ancora incollata a quel modello, ma in realtà sì, per il resto della popolazione la televisione, per come la concepivamo noi, non esiste più. Giustamente, cioè, diciamo. Sì, sì, diciamo che noi l'abbiamo vista, sì, sicuramente in Ritorno al Futuro abbiamo visto un'ipotesi di televisione di questo ragazzino che aveva 100.000 canali tutti insieme. Vabbè, forse magari questo non è proprio il massimo, perché sai, non è che vedere 12 canali insieme riesce a capirci qualcosa, però sembrava quasi un network, una roba che ci ricordava questo tipo di modello, che oggi possiamo vedere quello che vogliamo nel momento in cui vogliamo, senza aspettare che loro trasmettano il telefilm alle ore 15:30, il secondo episodio, tu devi aspettare quel momento. Tu oggi vuoi vedere un telefilm, vai su Netflix e te lo guardi. Questo ovviamente lo potevamo concepire negli anni 2000, ma negli anni 80 era difficile, sicuramente era difficile, che era difficile da immaginare un modello diverso da quello che era il modello a cui eravamo abituati. Cioè, immaginavamo qualcosa, ma forse non esattamente quello che è successo dopo. Sicuramente era qualcosa che non era facile prevedere in maniera precisa, almeno si immaginava l'aumento dei canali, del numero di canali di trasmissione indefinito, perché era già quello che stava succedendo, no? Esatto. Da un canale, due canali, Rai 1, Rai 2, Rai 3, canale 5, Rai 1, Rete 4, TV private, eccetera. Si immaginava nel futuro che avresti avuto 600 canali da cui scegliere, ma per quanto mi ricordo non mi immaginavo che tu, oltre a scegliere tra i tanti canali, invece potevi scegliere il contenuto del canale. Quello era già più difficile da immaginare, secondo me. Però vabbè, adesso ci siamo, insomma. E poi, come dice Simone, la televisione concettualmente intesa come network televisivo, quindi tornando al concetto di trasmissione, è qualcosa ormai del passato, che abbiamo ancora, ma che in realtà sta... Se sia anche il veicolo con il quale arrivano le informazioni, ormai non sono quasi più la radio, ma stanno arrivando ormai per... Sì, vabbè, ci sono tante cose che hanno cambiato proprio il nostro modello di percezione dell'intrattenimento, che è molto più selettivo e molto più indipendente, cioè nel senso, comunque noi oggi ci scegliamo quello che vediamo e dove lo vediamo, è la cosa più importante. Tant'è che al giorno d'oggi la tassa sulla Rai, per esempio, io la considero, l'ho sempre considerata un abominio, ma oggi a maggior ragione, perché comunque è una tassa coercitiva che tu paghi a prescindere, cioè nel senso, dato che esiste la televisione pubblica, tu la devi pagare. Poi se tu non ne usufruisci non fa niente, e questo è un discorso un po' a parte. Sì, salutiamo, sì, Andrea, sì, Trevisan, sì, che ci è venuto a trovare, il mio amico Andrea B. Trevisan. Sì. Che è venuto a trovarci. Sì, non so se ci ascolta da adesso o ci ascolta da prima, però. No, è venuto a trovarci come retrocampus. Sì, l'ho visto. Avresti dovuto. Come cosplay. Avresti dovuto internarlo. Esatto. Avresti potuto internarlo, cioè, secondo me. Ma va, è stato un grandissimo. Anzi, e ci ha fatto anche la tua imitazione, Simone. Devo dire, molto bene. Sì. Ecco, hai fatto bene a dirlo così, adesso sono cazzi suoi. E comunque lì dove siamo stati era probabilmente quello con come vestiti, come allestimento, il migliore di tutti, davvero. Così aprivo sta parentesina per vabbè, comunque. Allora, diciamo che noi come argomenti qua stasera avremo, sì, anche vabbè, chiuso. Forse possiamo fare un discorso finale per ognuno, dai, così almeno. Sul discorso trasmissioni televisive, canali, internet, eccetera, ma non me la ricordo più, quindi infatti, che è la cosa più importante. Cazzo, se ne frega. Poi ti verrà in mente, ne parleremo all'inizio, vabbè, della prossima puntata. Magari ti riviene in mente, dai. Certo. Prossima puntata, che vi ricordo, parleremo di Spazio 1999. Ci tengo a dirlo, insomma, quindi non il prossimo giovedì, ma tra due giovedì ritorniamo con Quando Eravamo Futuro e parleremo di questo e vedrete anche in che modo, cercheremo, insomma, di fare un discorso interessante. Se c'è qualcuno dell'epoca che se lo ricorda bene, che è particolarmente appassionato e vuole partecipare con noi in trasmissione, è ovviamente il benvenuto, basta semplicemente dirlo. Davide, invece tu come chioseresti un po' questo episodio, dove abbiamo fatto, trascurando milioni di altre cose, chiaramente. Sì, insomma, sì, beh, abbiamo fatto quello che siamo un po' ricordati, così che ci ha, esatto, colpito di più, ecco, senza andare troppo nei dettagli. Ma quello che dico è che dico sempre, magari a volte in contraddizione con i pensieri di Carlo, che sono quelli che ritengo che la nostra generazione, la mia generazione forse, che è leggermente diversa dalla vostra, di poco, ma è diversa, è un pochino, io ho qualche annetto in più, ha vissuto la tecnologia in un modo, l'evoluzione c'è sempre, anche adesso ci sono evoluzioni, la tecnologia va avanti, stupisce, tutto quello che vuoi, però devo dire che appunto noi l'abbiamo vissuto in un modo estremamente interessante, abbiamo visto davvero tante rivoluzioni, abbiamo visto la crescita di tante cose che non esistevano e poi sono esistite, e abbiamo avuto modo di stupirci tante volte, tantissime volte, nella mia vita sono stupito tante volte. Oggi faccio più fatica a stupirmi, ma questo è normale, che ci stupiamo di meno. Non siamo neanche più nell'età per stupirci, no? Cioè io se vedo oggi le cose nuove dico, però non mi stupiscono come mi stupivano allora le cose nuove, però è forse più una questione fisiologica e psicologica. No, credo che sia normale, oggi i ragazzi si stupiscono, però secondo me sono convinto, rimango della mia convinzione che noi abbiamo passato un periodo dove c'è stata un'evoluzione davvero incredibile, questo lo dice anche Carlo, siamo ripassati da momenti in cui quella cosa non esisteva neanche nel pensiero e poi noi l'abbiamo invece vissuta e l'abbiamo vista, ed è non esisteva neanche il concetto e abbiamo visto crescere dei concetti, delle cose che ci saranno anche oggi, immagino, però credo che abbia passato un periodo veramente interessante, ecco. Sono assolutamente d'accordo. Se poi ci dovesse venire o vi dovesse venire a voi altre idee relative a tecnologie, oppure proprio andare proprio specifico sull'elettronica, che è ancora più particolare, sì, perché l'elettronica è stato stato il must degli anni '80, insomma, eravamo tutti esperti di elettronica, tutti che smachinavano con kit. Era quello che pensavo fosse la puntata di oggi, poi quando ho letto il documento mi sono d'accordo che invece parlavamo. Vabbè, però comunque ci possiamo fare una seconda parte, magari anche col suggerimento di altre persone, perché noi quello che poi in realtà ci piace è fare questo raffronto con oggetti che sono compatibili, diciamo, con cose che utilizziamo oggi, ma che avevano magari comunque delle modalità diverse, limiti, e vedere proprio, secondo me è un po' questo un po' anche lo scopo, no? Cercare di fare questo ponte generazionale tra cose che noi abbiamo vissuto e magari altri che non si immaginano. Ho detto, ribadisco, cerca persone, ad esempio è uno di quegli oggetti che è andato perduto, e ovviamente, cioè nel senso, certo, rispetto a quello che abbiamo, però è comunque curioso raccontare il fatto che una volta esisteva quel tipo di oggetto lì, insomma. Intanto sì, Andrea Trevisan fa vedere la sua foto vestito da Ghostbuster. E la domanda che te fai è: che cazzo te ridi? Cioè, nel senso, comunque. Io intanto pubblico la controfoto. La controfoto, va bene. Allora, ragazzi, io ringrazio tutti quelli che questa sera sono stati con noi. Ovviamente Andrea Trevisan, insomma, che è venuto all'ultimo perché se scocciava deve venire prima. E ovviamente Marco Galleggi, salutiamo anche Giovanni Siculus, che insomma al secolo conosciuto come Siculus, è sempre tra di noi, anche se noi non lo vediamo, lui lo è vediamo. Sempre e tra poi di noi. Questo è importante, una cosa bella, e tutti e Michela De Paolo, ovviamente, che all'inizio poi penso si sia addormentata durante la trasmissione, ma giustamente, ma insomma ci sta, perché questa è una puntata un po' più nerdica, insomma, quindi alla fine ci può stare. Detto questo, io vi ricordo, insomma, che questa è Runtime Radio, il nostro sito è www.runtimeradio.it. sul sito c'è l'opzione Runtime Anch'io, dove se volete, tramite PayPal o tramite Patreon, se proprio ci volete proprio tanto bene, potete fare delle piccole donazioni a tutto il progetto Runtime, che il progetto Runtime continua oramai da anni imperterrito e continuando a sostenere le proprie spese, quindi aiutare, insomma, il progetto a restare in vita è, insomma, abbastanza basilare per noi, insomma. E ringraziamo tutti coloro che in questi due mesi hanno fatto, anche così un po' nel silenzio, nell'ombra, delle donazioni, che ci hanno comunque permesso di affrontare ovviamente le spese, e ringraziamo, insomma, se qualcun altro vorrà continuare a farlo. Ovviamente sapete che non è una cosa obbligatoria, insomma, è una cosa a piacere, se volete. Per quanto riguarda Survival Hacking, invece, video tutte le settimane come sempre. Sì, video sempre su settimana, anzi ultimamente stiamo facendo anche due. Quando ti arriva il silver button? Siamo lontani. Siamo lontani in cazzo. Tu piano piano, siamo lontani. Poi intanto macini sotto. Quando arriva, vabbè. Poi paghi, no? Certo, se quando arriva lo saprai. Ok, perfetto. mi compro la Time Radio. No, ma io, guarda, costa pochissimo. Appunto. No, scherzo, scherzo. No, niente, tutto a posto, sto producendo, adesso tra poco usciranno, lo dico qua, ma per quelli che ci ascoltano, usciranno i video di Natale, usciranno adesso perché sono materiali che richiedono un mese per averli, per poter avere questo oggetto a Natale, ma l'ho comprati a novembre e quindi usciranno tra un molto gli episodi di Natale. Sappiate, sapevatelo. Perfetto. Invece Carlo Sant'Agostino, archeologia informatica, che tutto merito mio, sta tornando alla pubblicazione. Che finalmente, grazie al ritorno in salute del buon Simone Pizzi, che è qui presente, che ringraziamo sempre, da domani ritornerà finalmente a ripubblicare dei video che sono stati, diciamo, per cause di forza maggiore stoppati per qualche tempo. Da domani sera ci sarà il nuovo video con ricominciamo alla grandissima con l'intervista al mitico Pieraisa del canale Pieraisa, quindi o Pieraisa, che adesso sbaglierò l'accento, quindi lo dico in tutti e due i modi. Pieraisa mi picchierà, Davide, magari correggimi tu se ti io ricordo. ho sempre pensato che fosse Pieraisa, poi Pieraisa, e vedremo la sua intervista per il canale di archeologia informatica domani alle ore 20, giusto? Alle ore 20. Allora, ore 20. Pubblicheremo praticamente un video nuovo tutti i venerdì alle ore 20, insomma, con un materiale accumulato, quindi insomma per i prossimi... Esatto. Forse qualche mesetto, insomma, forse 2-3 mesi. Forse riusciamo ad andare avanti, insomma, con la pubblicazione regolare come facevamo un tempo. Tra l'altro, ricordo che queste tre interviste, quindi quella di venerdì prossimo, quella di venerdì prossimo ancora, hanno un audio ascoltabile grazie a Davide Gatti, non certo a chi ha prodotto il video. Diciamo questa cosa è importante, insomma, perché esatto. Si scordano i microfoni a casa, gente, insomma, così. Sì. Grazie mille. Bene, quindi insomma andate archeologia informatica, survival hacking, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like a tutti i video che vi guardate, condivideteli e soprattutto commentateli e sostenete il progetto di Runtime. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi questa sera. Io mi raccomando, insomma, ci vediamo fra due giovedì con l'episodio dedicato a Spazio 1999. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.